Benvenuti a questo primo episodio di Clothes, come vestiti si dice? No, lo dico Clothes. Clothes, più anticheggiante. Va bene, adesso non lo sistemo. Allora, oggi giocheremo a questo gioco che è stato creato da Claudio Serena di Fumble, che quanto ho capito è una versione playtest, e il master, che in realtà si chiama Tessitore, se ho capito bene, sì. Una delle poche cose che ho studiato. È Giulio, che non aveva molto voglia di fare petrolieri, ma sembra essersi applicato molto in questo nuovo gioco. È molto più semplice. Molto più semplice, va bene. E niente, per il resto io non so praticamente nulla, a parte che si chiama I Capricci del Fato, che siamo in tre. Da qui, live, Bologna, zona, questura, terrorismo, ci siamo io, Catta e Giulio, che vedete dal vivo, mentre dalla Francia, come al solito in collegamento Skype, che è il nostro sponsor ufficiale, non è vero magari, trovate il Digno. Sì. No, è la Francia il nostro, nostro sponsor ufficiale. L'esercito francese? Sì. L'esercito francese. Cioè. Sì, mi dissocio da questo messaggio. Che dopo non vorrei che poi il prossimo stipendio mi arrivasse. Hai messo casuale davvero? No, avevo già scelto questa, ma boh, così non ci ho ripetuto troppo. Cantastorie sono io. Cos'è questo che mi hai dato, scusa? Adesso è un quiz, un questionario. È la scheda del personaggio. Direi che così è perfetto, si vede Giulio. Molto bene. E va bene, questo era invece una canzone così per l'atmosfera. E questo è Catta il distruttore. Anzi, allora partiamo da quello che so di questo gioco, che è veramente poco. L'ambientazione è fantasy. Io vado di fantasia. Puoi fare quello che vuoi. Ok. Davvero? Non ho manco la scheda. No, vabbè. Aspetta, te la mando. No, vabbè, tranquillo. Tanto immagino siano le stesse cose del. Sì, e poi c'è il coso con la tabella con i fili del destino. Allora, sì, magari un sunto. Come vi ho già detto, per le prove bisogna fare 7 per superare una prova. Con un D6, tirate il dado e sommate la virtù, il valore di virtù che avete messo a seconda della prova. Se uno attacca e uno ammazza, vigore, diciamo. E i punti ferita sono vigore più 2, mm-hmm. Avete 16 punti da spendere nelle 6 virtù, e potete in verità spenderli liberamente, non c'è un minimo, un massimo. Ovviamente se mettete 1 o 0, con 1 sarà quasi impossibile che voi riusciate, sì. Con 0 è impossibile. Però quello consigliato è il 4-3-3 che dicevi. Sì, per un personaggio diciamo che posso fare un po' tutto, però non può fare con tutto come vuole. Poi mi pare che loro avessero anche, dopo la prima sessione loro, parlato di questa cosa, adesso non mi ricordo esattamente. Quindi andiamo con quello che c'è scritto nel manuale. Questo è il bicchiere. Non ci sono i punti esperienza. Hai usato l'altro? Sì. Hai sbagliato, Catta. No, non interessa. Non devo fare quello. Okay. In questo gioco non ci sono i punti esperienza. Voi avete quella schedina che vi ho dato, dove c'è scritto distruttore o cantastorie, dove sono le 7 puntini del destino. Mm-hmm. Sono delle capacità speciali che vi dalla vostra costellazione che avete scelto, che in pratica è l'eroe patrono, il vostro eroe patrono, diciamo. Una specie di talento, praticamente. Sì, più o meno. Voi iniziate con uno, cioè in realtà si può anche fare la sessione origini, iniziate con zero e vedete quale usare. Voi iniziate con uno di questi. Ma siccome si chiama Eiki dal passato... Quindi devo scegliere uno. Scusate, ho sbagliato il contesto. Quindi devo sceglierne uno. Vabbè, comunque. No, sì, ce l'ho. Ma in realtà sono fighi i miei. Si inizia con uno. Quando c'è una prova che non volete fallire, o che volete che il vostro avversario fallisca, sicuramente, voi potete usare un filo del destino che viene consumato. Questo vi dà accesso a un altro potere, tra quelli segnati, quindi ne scegliete un secondo, o un terzo, un quarto, e vi fa appunto l'azione che voi state facendo, ha successo automaticamente, o quella del vostro avversario fallisce automaticamente. Dovete dirlo prima però di sapere... Il risultato della prova. Cioè voi prima di tirare dite io faccio questo e riesco automaticamente. Allora, una domanda... Punti ferita? Sono vigore più 2. Ah, giusto. Ok. Quindi sono pochi punti ferita, ma anche le armi di solito fanno un danno o due le armi alle mani, se uno usa, se potenzia gli incantesimi. La reliquia invece? Ci arriviamo. Ok. In pratica questi fili del destino rappresentano il vostro arrivare verso il compimento del vostro destino, appunto. Quando viene consumato il settimo, il personaggio muore. Muore in modo eroico. Però muore. Forse. Però muore. Ogni due fili del destino che consumate avete una abilità in più. Ma una specie di più. Ho una domanda. Noi abbiamo una delle capacità... Se ti passivo il tuo personaggio, li usi tutti in una sessione e lo cambi. No, a parte quello, noi abbiamo un punto capacità, cioè una delle capacità, quindi abbiamo già usato un punto fato. Sì. Ok. Sì, perché sì, ok. Siamo già eroi, insomma. Si fa finta, cioè... È stato qualcosa che... Che voi siate già nel vostro... Ma si può, appunto, come ho detto, c'è anche l'opzione origini che si inizia con... No, va bene, era per capire. Cioè, questo dipende da come volete fare. Guarda che riprova a recuperare il tuo manuale. Ok. Vabbè, la cosa è... in combattimento agiscono sempre i primi giocatori e poi il tessitore. Se avete... diciamo, se non c'è un accordo, allora si può tirare l'iniziativa. Che è un pro di volontà, ma se no è comunque primi giocatori. Ma anche se veniamo presi alla sprovvista? In quel caso, se non vi accorgete, sarete presi alla sprovvista, ma poi il turno inizia con voi, okay. Poi con l'avversario. Va a scene, cioè tolto i round ovviamente in combattimento, che però non sono... definiti 5 secondi e cose così, e la cosa procede a scene, quindi gli incantesimi o alcune abilità di solito o funzionano per un combattimento o per una scena, che ne so, una scena un come... viaggio okay. Da qua lì, oppure il vostro giro di perlustrazione per la città, o insomma una scena. Non ci sono le distanze in metri, ma ci sono tipo Star Wars. C'è contatto, media, lunga, fuori scena. Fuori scena, ok. Per spostarvi tra una distanza e un'altra è sempre un'azione in movimento. Ok. Voi avete un'azione? Non ricordo tutto. Vabbè, poi alcune cose ce le puoi dire mentre facciamo fondamentalmente. Non... Sai, è un'azione che potete usare quando volete, prima di fare la vostra azione, dopo aver fatto la vostra azione, mentre fate la vostra azione, è importante. E poi la vostra azione, che può essere combattimento, lancio di incantesimi. Come risposta a un evento, a un'azione avversaria, voi potete usare una reazione per contrattaccare, schivare, lanciare un incantesimo di protezione. Facendolo però rinunciate alla vostra azione successiva, okay. Cioè del round dopo. Qui sei. Com'è? Buono. Mi pare. Vabbè, questa era una cosa importante. Bellissimo. Quando voi fate una tirate un dado per vedere se avete successo o meno, potete decidere di sfidare il destino. Se sfidate il destino, tirate un altro di 6. Se con questo di 6 fate 1 o 2, vi capita una sciagura. Fate 5 o 6, invece tenete un punto fato. Le sciagure e i punti fato funzionano all'incirca come i dadi lato chiaro e lato scuro di Star Wars. Cioè potete usarli o accumularli e poi spendere successivamente. Scusa, quando è che ci arrivano queste cose? Quando voi fate un'azione, potete decidere di sfidare il destino. Ma anche se non abbiamo punti fato. Ah, ok, così. Cioè, tu attacchi, sì. Tu dici, vabbè, sfido il destino. Indipendentemente se è successo o non è successo. Ma lo devi dire prima di fare l'operazione o dopo? Dopo. Anche perché, appunto, se ottieni una sventura, è sostanzialmente un fallimento critico. Oppure può essere accumulata per dopo. Ogni riferimento casuale. E quindi puoi aver successo, ma ti succede qualcosa di negativo. Al contrario. Devi dire fumble, è tutto un metodo per fare pubblicità. Al contrario. Se fallite, sfidate il destino, ottenete un 5 o un 6, no, può succedere qualcosa di positivo. Cioè, fallite, ma succede qualcosa di positivo. Cioè non ho capito, falliamo se facciamo 5 o 6, se non fai 7, no. In generale nel senso in totale, compreso la somma del punteggio, esatto. Ok, chiaro. Quello è se fallite o meno una prova. Voi quando fate una prova potete anche decidere di sfidare il fato. Se lo fate, tirate un altro di 6 dopo aver stabilito se fallite o meno. Okay. Se fate 5 o 6 ottenete un punto fatto, che può essere accumulato o speso subito per incrementare il successo della vostra azione o per far accadere qualcosa di positivo. Se ottenete 1 o 2, okay, ottenete quindi una sciagura. È tipo un tiro oltre al tiro di virtù normale. Sì, esatto. Una sciagura tendenzialmente ha effetto subito. Una sciagura è l'equivalente di un punto fatto che però uso io. Ah, ok, non avevo più fatto capitare la sai. Esatto, e posso o abbassarvi un successivo tiro di dado, cioè farvi tirare due dadi e tenere il minore, o dire se succede questo, o tenermeli e magari vi arrivo il terrasco. Sì, ma sarò io il terrasco, quindi. Razza, io ho scelto terrasco. Anch'io. Ok, magari quella. Anch'io, io. Che catta? Che tu? Il terrasco, dai, va bene. e già abbiamo rovinato il gioco. Non era tipo drago anziano? Ci sono anche i draghi. Io sarò un super saiyan. Ah, no. Va bene, dai. Ma mi sa che sarà un uomo e basta. Più o meno. O no? Vabbè, al massimo se c'è qualcosa che viene fuori, ce lo dici. Man mano viene fuori. L'ambientazione è quella che descrive qua. Sì, abbiamo l'ambientazione. Perché mi hanno mandato su Dice Games? Ma perché ho fatto il coso sbagliato. Tanto l'ambientazione. Cazzo, mi mandi link col io. Manuale è molto. Per farti capire e far pubblicità tutti stasera. Venduto. Lurido. Lurido. magari. L'ambientazione data dal manuale è molto è libera, cioè sono poche cose segnate. In pratica c'è questo impero. Un po' piccanti queste cose. Diciamo che è l'ultimo baluardo della civiltà a farvi luce. Chi questo, scusa? L'ambientazione. L'ambientazione è l'ultimo faro di luce. Ah, la regione. Impero. Ah, ok. Diciamo, c'è questo impero che okay. Si chiama... Telomin. C'è il regno di Telomin, che ha prosperato ed è rimasto saldo e retto, mentre intorno ad esso altri regni sorgevano e crollavano caoticamente. Le forze della notte eterna... Fai un succo. In pratica, ma chissà quanti intrallazzi. È uno scontro tra bene e male, circa. Ci sono questi seguaci della notte eterna che vogliono appunto far scendere la notte. I seguaci di questa sorta di demone che si chiama Cotte, insomma, del genere. Vabbè. Comunque una sorta di demone. In pratica, sì, è uno scontro tra bene e male. E sostanzialmente questo regno è l'ultimo baluardo appunto rimasto di ordine e prosperità, però da un po' di tempo anche lui sta andando verso il declino. Di particolare c'è il Tempio dei Tessitori, che erano questi saggi che prevedevano il futuro e davano un orato sostanzialmente a chiunque si presentasse, ma da 70 anni non riescono più a vedere. Aiuto! Non riescono più a... Vostro obiettivo è andare lì e accendergli la luce. Non riescono più a fare premonizioni. Mm-hmm. L'ultima volta che ci hanno fatto era 7 giorni prima di questa mega battaglia che ci fu qualche anno prima, in tempo corrente, in cui si scontrarono 150.000 soldati tra appunto i soldati. Quanto tempo fa, scusa? Soldati. Mi pare 7 anni. Ah, ok. No, forse di più, però un tot di anni. Cadere con stile. Ok. Giulio, andiamo a quello che dobbiamo fare noi. Sì, esatto. Vabbè. Che risolviamo. Qui c'è stata, insomma, vicino a questa città che dovrebbe essere la capitale, che è ricchissima, è ancora... cioè ancora imponente, ricca. C'è stato questo scontro. Dove gli ultimi è l'ultima volta che si è sentito degli eroi, e non si sa che fine abbiano fatto, penso che siano tutti morti, nessuno è mai più tornato né tra i barbari del nord né tra i soldati del re. Questo è un periodo un po' di appunto sfacelo in cui i recisi, che sono gli agenti della notte eterna, stanno facendo culti e stanno commentando, diciamo, andando per le strade, proclamando la fine del mondo. E il re attuale è Gileon III. Senti, andiamo al sodo. Noi ci conosciamo, dove siamo e cosa facciamo? Quando è che livelliamo? Non hai capito un cazzo, fuori. adesso no, vediamo, ditemi chi siete. Giusto, Katta, chi cazzo sei? Mi chiamo Barbara. Barbara Streisand, no. Ma aspetta, prima la reliquia. Mi hai chiesto, le reliquie sono un oggetto importante per il vostro personaggio. Può essere più o meno qualsiasi cosa. Che mi ricorda Ludo questa cosa? Sì, perché ce l'ha sempre. Ma scusa, qual è quello? Qual è quello? Pensiamo dopo. Le reliquie? Per fare un esempio. Ma qual è quella canzone stupida? Cerca... ecco, vedi che... Dark Souls. Quindi tu sei questo. Le volte che fa qualcosa. Quindi dicevi, Katta? No, stava parlando lui. Ah, stava spiegando le relique. E anche la sigla di Giulio. Dicevi, Giulio, le reliquie sono un oggetto che è prezioso per il personaggio. E lo scegli tu o scegliamo noi? No, lo scegliete voi. Può essere più o meno qualsiasi cosa. Ah, ma tu non fai niente, però. Esatto. Per quello che era prontissimo. Sì, giochiamo. Ha letto il manuale ieri pomeriggio. Può essere qualsiasi cosa, ad esempio, quelli di Fumble, uno ha una fenice nel cuore, lo spirito di una fenice, diciamo, nel cuore. Un altro ha uno scudo gigante in metallo che solo lui può sollevare, e un altro che fa il cantastorie ha una penna che scrive da sola le storie. Quindi le reliquie possono appunto andare da oggetti magici o meno a, non so, il dente d'oro del nonno. Mm-hmm. Cioè non dà niente di particolare, caratterizza il personaggio. Sì, caratterizza il personaggio. Va bene, vai Barbara. Grazie. Allora, i piccoli uomini. Piccoli uomini. Io vengo dalle selvagge terre del nord. Ma grazie tu era sto intro. Donna barbuta è sempre piaciuta, Kat. Esatto. Io sono cresciuta in mezzo. Che voce mascolina che hai, Barbara. Esatto. Dai. Barbara. Succede quando devi vivere nelle zone più inospitali del continente. Vivevo in una delle tribù. Beh, puoi anche stoppare, grazie. Perché Barbara non ti piace la tua canzone? No, ma magari quando spacco teste, non mentre parlo. Anche perché mi è un po' difficile, capisci? Che non sono molto studiato. Combatti questo ritmo. Che belle scene. Quando ero in fasce nella mia tribù c'è stato un tumulto. Dovete sapere che quando nasce un nuovo nato da noi lo si butta giù per la rupe a prescindere. Scusa. Ok, scusa, abbiamo già deciso di mandarlo, di buttarlo in cagnara, va bene. Butta giù, voglio. E come cazzo siete riusciti quindi a sopravvivere? Quelli che si meritano di Claudio Serena, amici e parenti, non ascoltano. Gli ultimi in casa, okay. Ormai tipo le nascite sono in ormai è tipo una cosa normalita, tipo in realtà le porti punti quasi su praticamente. Esatto. Sì, le fanno partorire sul precipizio così prima esce. Dicevo, Claudio Serena, amici e parenti, non ascoltateci. Se non volete il vostro gioco sia dei amici invece. Vabbè, quindi e quindi la tradizione della nostra tribù vuole che per diventare il capo, diventare il re del nostro territorio, diventare un uomo, devi uccidere il re. Ok. Devi uccidere il re di cosa? Dei cadaveri? No, della tribù. Ah, quindi sì, dei cadaveri. La pila è quello che va ucciso. Ah, ma è già morto. Alla mia nascita venne profetizzato che avrei decapitato il re attuale e quindi venne lasciata abbandonata nella tundra per morire esposta alle intemperie. E quindi sei morta. Fine. Perché la rupe non funziona. La rupe ovviamente, se ero lì, non ha funzionato. Ah, che cazzo di provare, magari. Ma uccidere diretti. buttato giù dalla rupe, sì, no? Esatto, due volte. Nonostante i due voli che ho fatto, sono stata esposta alle intemperie e sono stata portata in salvo dagli spiriti del nord. In particolare sono cresciuta tra i lupi, covando vendetta e rimorso e risentimento per il... Ascolta una cosa, quando si sono fondato Roma, poi l'hai buttata dalla rupe anche loro. Sì, ora infatti non sento nulla. Dov'è il punto in cui infondi Roma? Cos'è che vuoi? Ho chiesto, dov'è il punto della storia in cui fonda Roma? Deve ancora arrivare. I miei giorni sono riempiti dall'odio che nutro nei confronti del malvagio Re Cremisi, così si chiama. Dove vuoi attaccare quello? Adesso aspetta. Vabbè. Ci penso io. Però sarà... Fate finire Barbara. Bene, Barbara. Sono cresciuta, mi sono... Solo che così. Aggiunta a questa tribù di nomadi che passava per le terre e ho cominciato a viaggiare il mondo in cerca di... Di essere abbastanza forte da andare a decapitare il mio malvagio avversario. Ok. Mm-hmm. Ora stai, vuoi tornare lì per ammazzare il tuo amico? Come hai distribuito? Okay. No, non si avanti comunque. Okay. Intimidire armi di taglio. Ok. Inizi con... No, va bene. 25 monete d'oro. Mm-hmm. E che rifai? Una spada dalla lama spezzata. Come si chiama il regno, scusa Giulio? Telomin. Okay. Giulio Lente. Ok, una palla dalla lama spezzata. Sì, Telomin si chiama. Ok. Oltre a quindi questo... Ah, il diritto ha un'armatura e delle armi. Mm-hmm. Poi c'è dentro l'armatura pesante, media e leggera. Pesante. Ok. Arma a due mani, direi arma a due mani. Mm-hmm. Posso avere anche uno scudo? No. Con l'arma a due mani. È una pozione di guarigione tipico di cazzo, più equipaggiamento vario. Mm-hmm. Che è un po' in roba. Armature qui funzionano che evitano di subire il danno. Cioè quando venite colpiti tirate, fai 6, non ha subito il danno. Ogni armatura però può proteggervi a un tot numero di colpi, quella pesante 3, quella media 2, quella già 1, e poi che vanno riparate. Quindi, Madonna, che pacco. No, va bene, cioè prende un colpo e esplode. Una distruttora. No, chi cazzo se ne frega, come essere vivente. No, umano. Non ho nessuna mano. Direi che con Barbara abbiamo finito. Barbara, sicuri? Sono io che non ho finito con Barbara. Distruttore. No. Sì. Riprovo? Il suono dell'inevitabilità. Ah, okay. Quello che carichi come un idiota e shot il primo che incontri, okay. Il più ignorante di tutti. Una volta per combattimento scegli un nemico e caricare. primo attacco colpirà automaticamente e se esegui una prova di figura con successo il tuo colpo infliggerà una ferita in più. Il prossimo tra... Direi Salla, che io sono un po' indietrino. Vai Vezzino, muoviti. No, sono indietro, vai tu. Allora, io adesso farò una roba e vediamo se Giulio mi stoppa e dice no, ci hai provato, Sam. Sono Cthulhu. Cthulhu. Il mio nome è Memphis. Ricky Memphis. Ricky Memphis. No, è Memphis. Ok. Del Tennessee? Fin qui va bene. E niente, sono... basta, sono preparato questo. No, voglio dire che la mia razza non è una razza comune, anzi direi che è molto rara. Non se ne conosce il nome, né altre persone oltre a me. Sei Yoda? Sei Yoda? No, è un po' diverso. Adesso arriverò al punto. E quindi probabilmente è o una razza che è scomparsa oppure una mutazione per cui io sono il figlio bastardo di qualcos'altro. Ho vissuto una lunga vita fino adesso, ho 213 anni. La mia razza è più o meno questa faccia qua. Non so se si vede. Ma che cazzo è un elefantino con la barba? Sono una sorta di goblin con le orecchie, tipo, presente un cane, tipo... Sì. E la barba lunga, sono alto circa poco meno di 90 centimetri. Ah, carino. Guarda quello quanto è basso. Quindi dicevo, sono molto vecchio e ho studiato alla Torre dei Saggi. Per un po', poi dopo i primi 60 anni avevo già letto tutto e quindi sono uscito. Okay. E ti dico, allora, quindi saggio, i punti che ho dato è accuratezza e ascendente 1, okay. Prudenza e vigore 2, okay. Sapienza e volontà 5. Che potere inizi? Ah, il potere non lo so, in realtà volevo chiedere a voi se vi piaceva di più oracolo, che avrei scelto tipo volontà, per cui se qualcuno di voi deve fare un tiro su virtù volontà posso tirare io al posto suo, oppure io e scegliere il mio risultato. Oppure l'altra cosa carina è verità rivelata, quindi se io non trovo rivelata, sì, buonanotte. Se fallisco un tiro di sapienza, Giulio mi dice non lo sai, però sai a chi puoi chiedere. Dove trovare l'informazione. Esatto. Ditemi voi. Sono tutti e due abbastanza carini. Io metterei forse... Sembra più comoda la seconda. Più comoda, vabbè, la prima in combattimento oppure in caso di... Va bene, allora prendo verità rivelata. Ok, la tua reliquia? Allora, aspetta. Felissimo. Allora, intanto le specializzazioni che ho preso scienza e alchimia, che non è altro che magia trasmutazione. Però invece che essere una magia, io lo faccio con la scienza, per quello la chiamerei alchimia. Ok. Posso dire la mappa? Allora, io giro con un'armatura leggera e un bastone che uso per sorreggermi, ma eventualmente posso usare come arma una mano. Mm-hmm. E la mia reliquia è un libro che è... Quanto vigore hai? 2. Okay. È un libro? È un libro su cui io prendo appunti, ma che solo io posso leggere. Ok. Non sta a me, purtroppo. Tanto non saprei leggere comunque. Sì, va bene. Allora, Io sono un elfo, non ho mai fatto un elfo, quindi facciamolo. Che schifo. E mi chiamo Dalbiron e mi chiamano il narratore. Aspetta. Ma voi potete chiamarmi il maestro. Dalbiron. Dimmi, non va bene il nome. Cominciamo da subito. No, visto che sei un elfo... No. C'è la restrizione degli elfi? No, c'è una comunità di elfi della notte da qualche parte, però vabbè, questo magari lo scopriamo in gioco, te lo dico dopo quando iniziamo a giocare. Comunque, vabbè, adesso questo è, non so quanto sia rilevante, perché diciamo il mio background era che appunto io sono un elfo, però praticamente è successo che il villaggio degli elfi, la comunità dove era, stata praticamente distrutta da un attacco di orchi, e quindi io sono però, siccome giocavo poco lontano, sono praticamente riuscito a sopravvivere, e dopodiché praticamente sono stato preso, ero molto piccolo, sono stato preso in custodia da questa famiglia di umani, che partavano di nomadi, che passavano di là, e quindi io sono cresciuto di fatto con gli esseri umani. E una volta appunto cresciuto, non sono voluto staccare dalla comunità dove ero e sono andato in giro per il mondo e conosciuto, al seguito di mercanti e poi avventurieri, e diciamo la mia passione è diventata appunto quella di raccontare, scrivere storie. E quindi sono andato diciamo un po' ovunque, dal mare delle stelle alle cime più alte, per appunto avere sempre nuove avventure. E l'ultimo gruppo di avventurieri che ho seguito è stato un gruppo che andava a caccia di questo drago, un drago dorato, e effettivamente l'ha trovato questo drago dorato, ma diciamo che non è finita benissimo per loro. E io in qualche modo però sono riuscito a sopravvivere, in modo molto fortuito e fortunoso, e adesso sto cercando diciamo un nuovo gruppo che ispiri le mie storie. Okay. Detto questo, quindi sono un cantastorie, e io pensavo di usare i miei punteggi in questo modo, praticamente tutti e due, tranne prudenza, che ho 3, e ascendente, che ho 5. Però stavo pensando anche se fare come c'è 1-1 e fare 3. Uno occhio potrei che fare... io ho preso 1-1, ma 1-1 vuol dire quasi fallimento automatico. Lo so, infatti. Quindi devi fare 6 per uscire. Vabbè, dai, rimaniamo così. Quindi ho tutti e due, 3 in prudenza e 5 in ascendente. Cioè, in realtà li ho presi perché ho pensato che essendo alto tipo così e così, probabilmente vigore faccio abbastanza... No, e cos'è? Accuratezza e cosa faccio abbastanza schifo. Dimmi. Ok, le specializzazioni che prendo? Allora, le specializzazioni che volevo prendere sono... le avevo guardate... direi raggirare e intuire intenzioni, pensavo. Anche se so che Salla lo sconsigliava. No, va bene. Però alla fine ci sta, perché io alla fine comunque... sono visto sempre visto un po' così, arrangiandomi un po' con la mia parlantina. Qualche comparsa su Rai 1. Qualche comparsa su Rai 1, qualche spettacolo così, insomma. E soprattutto molti laboratori, quello va detto. La reliquia? Ecco, sulla reliquia, se mi dai un attimo, poi te la dico, okay. Perché ci volevo pensare un secondo. No, ma non ho sì, posso anche avere. Dici che vuoi la lira. No. Dice uno strumento, potrei farlo. Contare vigore? In vigore ho 2. Quindi un'armatura leggera e... Natura leggera. Puoi scegliere un'arma di mani, un'arma di una mano scudo, due armi di una mano. Un'arma a due mani... Che armi ci sono? Quelle che vuoi, tanto fanno tutti un danno. Potrei andare un arco, no? Una mano. dice il classico me che sta lontano e spara. Certo. E, ma facciamo tutte fanno uno, hai detto, no? Tranne quella due mani che fanno due. Che fanno due. Ma un'altra cosa, tutti voi potete usare la magia. Diciamo che ho una spada normale, insomma, una spada. Cioè, non sono classica, non posso utilizzare la magia. Non c'è neanche scritto. Ci sono delle scuole che sono abjurazione, ammaiamento, comunicazione, dislocazione, divinazione, elementalismo, guarigione, illusione, trasmutazione. Ogni scuola ha delle virtù consigliate e ha, diciamo, un effetto base, ma che poi potete potenziare con punti fato, spendendo punti fato, aumentando, penso, la durata, le persone su cui ha effetto, ma tutti potete usarla. Cioè, non è che al barbaro, diciamo, al guerriero è precluso. Anzi, in teoria mi sa che per guarire sei più forte tu, Kat. Perché serve la... vigore. Vigore. Sì, guarigione consigliato è vigore o accuratezza. Poi possono anche essere altre virtù, dipende da come voi descrivete, cosa state cercando di fare. Allora, la mia reliquia è una pipa, che praticamente mi permette, quando la fumo, di fare tramite la pipa vari anelli di varie forme. Cioè, qualunque forma mi viene, posso farla con un anello di fumo. Sì. Leggere a girare e intuire intenzioni, ho detto. E allora, qui la spada non vedo che non lo dice da nessuna parte. Che cosa? Equipaggiamento. Dov'è? Armatura, scudo, equipaggiamento, qua devo dire. Metto un classico stocco. No. Un'altra cosa, contate che le vostre specializzazioni non sono legate a una virtù, ma a seconda di quello che volete fare potete usare qualsiasi virtù per la vostra specializzazione. Ad esempio, in questo caso l'elfo a raggirare in due intenzioni, raggirare tenterà non ho capito niente. Che cosa devo fare? Per fare cosa? Scusa? Tu dici, non è detto che tu debba per forza usare quella virtù lì per quando fai un incantesimo. Cioè, non è che è una specializzazione associata a una virtù. Uno può usare diverse virtù con la stessa specializzazione. Faccio con il mio intimidire. Sì, con il suo intimidire lui può usare vigore per dire ti spezzo in due brutalmente, oppure può usare ascendente. Il classico ascendente, ti spezzerei in due per fare la minaccia sottile, quelle cose lì. Qui fa l'esempio delle armi da fuoco, che ha, che ne so, accuratezza per sparare, ha sapienza per identificarle, per ricordare dettagli, e ascendente per ottenere dal mercante un prezzo migliore sul fucile, ad esempio. Cioè, sono molto libere. Non ho capito. Detto questo, possiamo più o meno partire. Se io ho due armi, non cambia niente, sempre uno. No. Se hai due armi, funziona che se manchi, puoi tirare un dado, se ottieni 6 hai colpito con l'arma secondaria. Allora potrei fare stocco e pugnale, fai così. E va bene, quindi niente scuso. L'armatura leggera che cosa fa? Punti ferita sono vigore più 6, giusto? Due. No, più 2, quindi 4 punti ferita. Quando ti feriscono tiro un dado, se fai 6... la ferita se la piglia. In realtà siamo tutti pacco tranne Katta che Vabbè, io sono il sacco di carne. Non ho capito, scusate ancora, l'armatura, se tiro, sì. Tiri, se sì. Fai 6, se si becca lei il danno. Lo so, ma il fatto che sia leggera... Che lo puoi fare una volta. Ok, media, quindi volte, qua cosa... Ah, qua segno la X quando ho usato il mio, ok. Dopo devi farla riparare o ripararla. D'accordo, ah, ti dovrei dire il filo, parte. Giusto? Sì, il filo. Cioè, basta che lo scegli, tanto non è che lo sto segnando. Va bene, adesso ci guardo e scelgo. Intanto possiamo iniziare. Ok. Anche se uno... Scusa, sì. Mi metto che tu sei con dei... con una tribù di nomadi. Sì, anche più o meno come quello. Lui è in una locanda. Cerca di avventura. Sì, in una locanda. Cioè, diciamo, sono abbastanza conosciuto nelle varie locali. Lui è un essere strano. Io sono spinto dalla conoscenza. Un tipico personaggio di Digno che poi ha l'atto pratico. Ha l'atto pratico, spacca tutto quello che trova. Per conoscenza di sapere cosa c'è dentro. Ragazzi, lo sapete che gioco sempre lo stesso. Fastidio, ci penso io se vuoi. Lo sapete che gioco sempre lo stesso PG, raga. Tranquilli. Tu fumati la pipa e stai calmo. Oh. Au. Vabbè, potete chiamarmi il maestro. Allora, voi siete nei pressi del tempio dei tessitori. Ah, c'è cosa non so. Ah no, io pensavo al santuario della notte eterna. No, no, no, del tempio. No, per quelli in podcast che ci seguono, era praticamente quelli in podcast stai mostrando. No, no, no, ma ci sta, puoi comunque mostrare, non credo che si vede. Guardi la diretta. E praticamente è una mappa in cui due terzi. Mare? Il mare è un pochino più di un terzo, sarà. Vabbè. Sì, due terzi, il terzo. Ok. Sì, ma mi pare di aver capito che Claudio, che l'ha fatto, abbia una fissazione leggera per le mappe. Chi è che l'ha fatto? Se è fatta Claudio. Claudio, vabbè, comunque non è che ci siano tanti punti su questa mappa. Ora noi siamo in questo tempio dei tessitori, che forse è tra delle montagne, però non si capisce. No, è presso una città nel segno. Ok. Il tempio dei tessitori era il più importante fulcro della vita pubblica di Telomi. Appunto, come ho detto prima, tutti andavano lì per chiedere profezie, consigli in cambio di offerte, ma non c'era un'offerta, diciamo, cioè, ognuno dava quello che riteneva giusto. Sono però ormai 70 anni che i tessitori sono incapaci di scorgere il futuro e la gente ha perso molto velocemente stima per loro e fiducia. Nei pressi di questo tempio sorgeva una città conosciuta come Galea, che adesso è un po' in rovina. Sta facendo. In questa città inoltre ci sono parecchi culti dei recisi. Dei? Recisi, che sono... Quelli che si tagliano? No, sono quelli che diciamo... Ognuno ha le sue tradizioni, ascolta, c'è chi butta la roba, c'è chi si recide. Sì, esatto. Per fare i nostri bambini. No, sono appunto quelli che ho detto prima, gli accoliti, diciamo, della notte eterna, quelli vanno in giro a predicare che l'arrivo imminente dell'apocalisse, recisi perché non hanno figli del destino, diciamo. Sono recisi dal destino. Ok. Che più o meno occupano una città. Questa città è ormai in rovina ed è sostanzialmente un punto di passaggio, soprattutto per i profughi che vengono dal nord e che scappano dai pericoli e che non possono essere accolti nella capitale. Voi siete lì, chi in cerca di conoscenze, chi appunto... a seguito della sua tribù, in quanto gira dal nord, e chi cerca di storie da raccontare. Scusa Giulio, ti interrompo solo per dire che il mio filo è la tua storia non è ancora finita. Praticamente dice che posso aiutare i miei compagni a ignorare le proprie ferite per farle vivere almeno un altro giorno. Quando un tuo compagno sta per perdere i sensi a causa delle proprie ferite, puoi rinunciare al tuo prossimo turno e curarlo subito di un numero di ferite pari al tuo punteggio di ascendente, ma solo una volta al giorno per compagno. Non li stai effettivamente curando, li stai aiutando a dimenticare il proprio dolore. Cioè, tipo, tu sei lì che stai agonizzando e ti dico: ma no, che stai benissimo, non vedi? Il sole splende. Tipo il rally di... Non vedi che è bello? Della quinta. Va bene. Quindi questo è il mio film. Ok, siete per un motivo o per un altro lì, e iniziate a sentire, se tutti nella stessa diciamo zona, mm-hmm. iniziate a sentire degli schiamazzi, delle urla. Oh, c'è da menare le mani, vado a vedere. Cerco una... Ah, aspetta, ho una domanda, ci conosciamo quindi? No, ancora, cioè, volete conoscermi? Secondo me ci può stare, non lo so, come volete. Ma magari siete in città da un po'. Boh, aggiungiamoci su Facebook. Esatto. Beh, probabilmente la mia tribù conosce la sua. Magari si sono incontrati in quale tribù? La mia, perché lui è l'unica. Vi conoscete perché magari siete un po' in città, vi siete visti comunque. A una locanda. Classico. Tu hai saputo che c'è una strana creatura e sei interessato a scrivere di lei. Ci sta. Mi siete un po' conosciuti. Oh, buonasera, elfo Gracile. Buonasera, strana creatura Gracile. Io penso che la mente sia la qualità da allenare. Buonasera. Di più. Buonasera. Piccola sì. Cosa dice cosa? Anche a me piace molto la mente. Ha ragione. Io credo che la mente sia il muscolo da allenare. Cosa sono questi schiamazzi? Vediamo di capire che cazzo sta succedendo. Per Dincibacco, oggettivamente. Ok, vi avvicinate. O volete fare qualche prova prima? No, vado lì dritto. Io sto un po' in disparte, ma cerco... Io lentamente, guarda. Visto che sono un vecchiaccio, provo a seguire quei babbuini. Ok. Stupidi privati! Appunto, sentite dei campanacci e la gente che urla... Ah, voi dove pensate di scappare? Ah, che vi raggiungerà ovunque andate! E ci sono questi qui incappucciati di nero, con tuniche nere, che è un gruppetto che sta minacciando dei passanti, dei profughi sostanzialmente, che stavano passando lì in quella zona. Cerco di chiedere a uno, diciamo, lì vicino, che mi sembra, tra virgolette, a posto, cioè una persona strana, tipo, oppure con tipo lì che dice sì, voglio morire, ma uno insomma che diciamo normale, che cosa sta succedendo? A parte la cosa ovvia, cioè chi sono questi personaggi? È un gruppo di recisi, spadroneggiano in città praticamente, non c'è nulla che... Ma chi sono? Con chi sei? Perché se stanno prendendo con queste persone? Perché spesso, non è come gli gira, chiedono oboli o cose ai passanti. Ma chi passa lì. Bene. Vado lì e gli faccio... Ah sì, ecco. Dite! Io non conosco. Io non hablo... Dite a questa signora notte di venire a dirmi in faccia le cose, non di mandare... i suoi tirapiedi. Ah, che quanto si è fatto, ma quanto si è fatto tardi? ho lasciato la suora sul fuoco. Te faccio un intimidire. Ok, fai qualcosa. Che cazzo è successo? Bella sta. I miei grossi esatto, e mi batto sui pettorali. Mi hai scritto un messaggio privato, Digno? Sì, Cioè l'idea era proprio che tu non interrompessi la roba. Però a quanto pare non ha funzionato. Cioè devo scrivere... Ormai dimmelo. Dimmelo. Ora devo scrivere. La mia pipa fa praticamente delle sorte di anelli di fumo che però prendono la forma di quello che mi pare quando la fumo. Grazie. Prego, non c'è di che. Allora sto a intipidire. Possenza, tiri fuori le tette. Quindi è una specializzazione, quindi tiro due dadi e scelgo il più alto. Il mio maestro Arci. Esatto. Infatti in realtà è un tributo questo personaggio al grande, all'enorme Lindlow. Proposto di Arci. Si vede. Boh, lo faccio su vigore, me lo concedi. Ti ha soddisfatto la mia discrezione? Sì. Insomma, prendo una panca con le persone sopra e la ribalto. Per persone, no, ditelo la notte. 4 più 5, 9. Ok, vedi che sono che si fanno indietro. Sì, ok, ma tu cosa vuoi? Lasciaci fare. Ma ti ho detto di chiamare la tua signora. Arriverà, arriverà prima o poi. Ah, che palle, un altro cagasotto. E me ne vado. Molto disappointed, come si dice in italiano. Deluso. Deluso, grazie. Ah, te ne vai quando vedi, quando loro vedono dove stai andando, tornare. Ma vogliamo immischiarci in questa cosa? Beh, non c'è da menare, a me non interessa. Sì, non credo, non so quanto vantaggio possiamo avere, però magari forse possiamo trovare un compromesso. La tua senti col sangue e la sua. Non so come potrei aiutarti, Barbara. Secondo me l'ideale è non immischiarci. Beh, peccato, speravo in un po' d'azione questa sera. È da giorni che siamo qua ad ammuffire. Ricorda, non è importante fare del male, ma imparare cosa c'è di nuovo nel mondo. Magari questi recisi possono avere delle conoscenze che ti possono interessare. Piccoli Memphis. Memphis, Grizzlies. Bah. Ma dici di seguirli e andare a vedere dov'è il loro covo? Ma noi di conoscenze generiche sulla città sappiamo che questi governano tra virgolette la città, o che insomma possono offrirci missioni o cose, oppure possiamo semplicemente bastonarli? La città è sostanzialmente questa città vicino al tempio, è sostanzialmente in rovina, e loro sono i bulletti della città, che sono praticamente appropriati di alcuni quartieri, non c'è più una legge, loro spadroneggiano, si rifanno sui profughi che scappano dal nord. Beh, possiamo seguirli e vedere se questa è la forma di governo migliore in questa città. Ma che cazzo è questa? La democrazia cristiana? Beh, secondo me Piccoletto ha ragione. Ci sarà sicuramente qualcuno che vale la pena menare laggiù. Se c'è da menare, forse c'è anche una storia da scrivere. Oppure del casino da cui scappare. Però in ogni caso possiamo vedere. Quindi state lì a guardare la scena. Quindi, beh, potrei pediniamo. Ok, loro derubano sostanzialmente questi profughi, non ne feriscono anche qualcuno con bastoni, picchiando, e poi si allontanano. E voi vi pedinate e mi fate una prova di prudenza. Questo è il momento del... Guarda come e prude. Ale, subito, 4, 1 e più 3, 4. 7, 5 più 2. Allora, usiamo un'applicazione per fare una cosa che avrei potuto fare. 5. Minchia, sono io l'unico sfigato. Aspetta, che 5 fatto. Più 1, 6. Che schifo. Ah no, prudenza 2. 7. Allora sono io quello che gli sa sgamare. Che ho 3. Bravi. Con la sua pipa. Un ottimo lavoro di squadra. Schietto per l'occasione. Quindi, mentre nonostante tutto la Barbara vabbè, mentre Barbara e Memphis riescono a, diciamo, che rumore può fare un povero vecchio passare senza far troppo rumore, a un certo punto scusate, è l'allergia. Okay. Tu ti e proprio sei in mezzo praticamente a un vicolo vuoto. Quindi tu starnutisci, loro si girano e vedono te e vedono anche gli altri due. Grazie. Com'è che ti fa un certo qualche freschino di questi tempi, che dite? Com'è che ti chiami, Vez? Come ti chiami? Io mi chiamo Dalbiron, ma puoi chiamarmi il narratore, o meglio il maestro. Dalbiron. Oh, un elfo, si dice che abbiano un sacco di ricchezze. Cosa ci fai, povero elfo, qui? Se ho grandi ricchezze, come faccio a essere povero? Però povero è più corretto in questo caso. Guarda poco. E vi stavamo cercando una locanda da queste parti. Conoscete qualcosa? Posso tirarlo a girare? E essendo una specializzazione tiro 2 di 6 e scelgo Ermeor. Sono tra il 6 e l'1, non so bene quale scegliere. Scelgo il 6 e ci devo mettere cosa? L'ascendente? Sì. Vabbè, 11, quindi immagino che sia passato. No, non so se è contrapposto o meno. Sì, in questo caso era contrapposto. Ma ho fatto 6 col dado, ma allora ovviamente meno. Power player. Va bene, ok, vuoi sapere dove è una locanda? Non ci sono locande, però. Non ci sono locande, che tristezza. Voi per divertirvi cosa fate? Pessima scelta di parole. Derubiamo i polli come te. Come me? Ma lui non è un pollo. Beh, non sono un pollo. Questo è quello che voglio. Oh, quello grosso, quella grossa di prima. Ma ecco. Hai qualcosa contro le grosse? C'è a chi piacciono, forse. Non so. Sarà meglio. È una minaccia? Forse. Signori, non... Cioè, che motivo c'è di venire a tale tensione quando possiamo invece tutti insieme trovare un modo per svagarci, magari bevendo qualche birra o qualcosa? Sono sicuro che qualcosa da fare in questa città, oltre a rubare a della gente che sicuramente lo merita, ma in fondo sicuramente ci sono altre possibilità. Sì, si può andare a sputare o a sporcare il tempio dei tessitori. Beh, sembra un'attività ludica che prevede un esercizio fisico, quindi sicuramente qualcosa di positivo. Dove si trova questo tempio dei tessitori? No, io lo so, però, in realtà. Sì. Perché è una costruzione abbastanza comunque. E quindi davvero nessun altro tipo di divertimento? Cioè, sembra tutto molto divertente, non sto dicendo di no, ma... proprio niente, Ci sfotti? No, assolutamente no. So che... Assolutamente no, so che voi siete, diciamo, quelli un po' più importanti, insomma, di quelli più importanti in questa città. E quindi magari pensavo che fosse, insomma, qualche club esclusivo, qualche luogo. Sai, io sono un cantastore, mi piacerebbe esibirmi e mostrare, insomma, la mia arte. Credi nella notte eterna? come chiunque timorato dal io, insomma. Dimostralo. Che la notte eterna possa giungere su di noi, ma punire chi non ci ha creduto e invece risparmiare coloro i quali nel buio hanno da sempre creduto e perversato. Tiro sempre due. Prenderò il 5 e ci aggiungo il 5 di ascendente 10. Minchia, OP. OP. Puoi dire qualsiasi cosa, Lez. Chi non lo è d'altra parte di questi tempi, insomma. E la tizia. Oh, sì, sì, siamo tutti assolutamente convinti e devoti. Beh, tecnicamente non credo sia quello la religione migliore da seguire, anzi la più accurata. Che cazzo? No, lui è troppo piccolo per coprire. Nella sua lingua dice lunga vita alla notte eterna. Sarà. Cosa dici, scricciolo? Dicevo che la notte eterna... Io lo posso scalciarlo. Posso tipo faccio come cadere, tipo lo scalcio. Devo fare un tiro. Vuoi recare danni? No, voglio solo tipo interrompere questo sproloquio. Ah, io. E dicevo che, come ha detto il mio amico. Ah, vedi? Siamo tutti assolutamente dalla stessa parte, come potremmo non essere d'altra parte. Ok, allora... Però non siete visti. Vabbè, vi dovremmo dare delle tuniche. Ah! Proprio un'ottima idea. Sì, perché insomma adesso questi vestiti, guardi, io è da molto tempo che le dico che non è il modo adatto di vestirsi, ma cioè che non va nella mia, ma mai che mi dai, che mi dia retta, delle tuniche saranno perfette, mezze tuniche in alcuni casi. Ok, le seguite vanno a una sorta di covo e vi danno delle tuniche. E poi iniziano a contare il bottino della giornata. Dove lo metti? Il bottino. Hanno un forziere. Ok. Stella, posso fare. Però. Un nascondiglio. Hanno una buca stanza interrata. Non so, poi. Cantino. Bene, segniamo la nostra tunica della notte. Tunica nera con cappuccio, d'accordo, della notte eterna. Va bene, a parte il bottino, cosa succede in questo posto? Cioè, com'è la situazione? Quanta gente c'è? Sono una... Tunica nera con bottino, sto scrivendo. Una decina di persone, e il gruppo che avete seguito erano 4, quindi ne sono 6 più. E niente, c'è chi si bulla di quello che ha fatto durante la giornata, c'è chi se ne sta in disparte affilando il coltello o un'altra arma, chi appunto conta i soldi, e alcuni, nonostante le spiegazioni che hanno dato l'altro gruppo, continuano a guardarli male, non troppo convinti da questa eterogeneità. Mi riguarda ancora più. E su di loro non sappiamo molto, giusto? Forse ne sa qualcosa. Posso fare un tiro per vedere se c'hanno un capo, un qualcosa, o lo so già. Ma dici in generale o questi? Questi. Ah, ok. Tiro di sapienza. Sapienza, sai in generale come funziona, non sai chi questi potrebbero avere come capo. Non faccio a cambiare questo. Ah, okay. Allora no, in questo forse caso proprio il momento in cui doveva tirare. lo dico, era proprio il momento in cui doveva tirare. No, in realtà, è meglio se tiri tu, Vez, a raccogliere informazioni. Io non ho esattamente raccogliere informazioni, ma sì, posso... Sì, cosa vuoi sapere? Io posso sapere qualcosa in generale sull'organizzazione tipo di... Chiedo a quello, diciamo, che ci aveva dato confidenza, è sempre lì... Sì, sto contando un fondo che ha rubato. Ma quindi qui chi è che... A parte ovviamente la notte nera, ci mancherebbe, ma chi è che, diciamo... La notte eterna. Notte eterna, ovvio. La notte eterna, che cazzo dice la notte nera? La notte, la notte si sa però che è nera adesso, fratello, senza offesa. Naturalmente è eterna. A parte la notte eterna, che comunque è anche nera, varie tonalità di scuro, se non altro. E, chi è che qui, diciamo, ha un ruolo più, diciamo, come si dire... Che guida, insomma, questa nobile organizzazione. Eternamente. La nostra nobile organizzazione è ovviamente guidata dalla notte eterna. Scusami. Naturalmente, e ci mancherebbe che non fosse così, come noi, ho detto. Noi rispondiamo a Coptes, che è l'incarnazione della notte eterna. Beh, Coptes ovviamente sempre sia lodata e i suoi e... certamente no, mi chiedevo però se ci fosse, diciamo, un capo fratello qui. No, siamo tutti alla pari. Beh, mi pare, per cosa ascendente, per quello che ho fatto tirare te. Niente, sei niente, si continua per massimi sistemi dogmatici e rispondiamo a... Ok. E va bene, posso fare un tiro di sapienza, anche se faccio un po' cagare, per vedere se magari mi ricordo una leggenda, cioè una storia sulla notte eterna o cose così, o me la posso anche, o me la posso inventare. Cioè, se me la invento è pericoloso, indubbiamente. Ah, per far colpo, dici. Sì, diciamo, metto lì a fare il mio mestiere. Insomma. Ah, dici, nel senso, metterti lì a raccontare una storia. Sì, esatto. Sì, sì, puoi farlo. Ma cosa, cioè, se faccio un tiro sapienza posso ricordarmi una leggenda? Sapienza, sì. Proviamo, dai. Yeah, 4. No, non te la ricordi. Puoi provare lo stesso, se vuoi, sì. A vendergliela. Certo. Tu... E mi metto a raccontare questa storia. Geo della notte eterna, cosa so? A parte questo, a parte niente. In generale sai che, diciamo, è sostanzialmente la fine del mondo, appunto l'incarnazione della notte, questa sorta di demone, e i demoni sono servitori della notte eterna. Demoni sono servitori della notte eterna, ok. Poi appunto ci sono questi accoliti che la venerano e espandono il suo credo. Ma i demoni si vedono, cioè insomma roba che esiste comunque. Cioè... I demoni non sono frequentissimi, però si sa della loro esistenza e i demoni in sé agiscono, mentre... Va bene. E vabbè, allora racconto la storia... E sai, boh, puoi sapere che, anche visto che conosci lui che viene dal nord, e che la sua tribù è stata attaccata dagli orchi, che gli orchi sono consumati al potere oscuro da notte eterna. E questa è una cosa buona per loro. Sì. E niente, allora racconto la storia di fratello Joseph e del demone Krishnix, che praticamente era fratello Joseph era deriso dai benpensanti che non riconoscevano il potere della notte eterna, e venne proprio scacciato addirittura a un certo punto con vergogna dal suo dal suo villaggio, da questi, questa gente, questi befolchi, anche se molti di loro, ben vedere, erano gente, insomma, ben abbiente, ecco, diciamo che non avevano magari la zecca in casa, ma insomma, ci andavano vicino. E quindi lo scacciarono, e lui, non sapendo dove andare, si rintanò in questa caverna, dove trovò questa creatura, il demone Krishnix. Ma all'epoca non sapeva che si trattava del demone Krishnix. Il demone Krishnix però gli raccontò quella che era la verità, che lui sapeva, ma ancora non aveva ben compreso. E a quel punto, quando la fede crebbe forte in lui, poté liberare il demone Krishnix, che lui non sapeva, ma era ingabbiato lì da ormai secoli, da un incantesimo di gnomi abietti che l'avevano relegato appunto in questa caverna. E una volta liberato Krishnix, grazie alla sua fede forte, poterono andare insieme al villaggio dove, diciamo, con astuzia e coraggio riuscirono a, diciamo, a far sparire quel sorriso dalla parte, da parte di questi pensanti e a ucciderli. E vabbè, ovviamente aggiungo dei ghirigori quella. Tiro di ascendenza. Sì? 5 più 5 è 10. Rimangono stupiti nel ascoltare la anche io, Joseph. E anzi, ti chiedono di raccontarne altre dopo. Ah! Non la conoscevamo, ne sai altre, ne conosci altre. Non so quante volete, naturalmente. Ma non avete. Non c'è nulla qua per diciamo, sciacquare la mia gola. Ma sì, certo, ti porta un bicchiere di acqua. Di vino. Grazie, fratelli. Ma ditemi bene. Qui, insomma, tutti questi profughi, cioè, gentaglia, insomma, no? Ciechi non riconoscono il potere della notte, scappano. Assurdo. Dal nord, dove è più forte. Ma voi volete andare anche voi al nord o rimanere qua, diciamo, come avamposto della grande notte eterna, scura? Nera, forse. No. Noi rimarremo qua. Mi sembra molto più nobile e coraggioso. Ci sono altri al nord, senza contare i re barbari, stanno radunando le truppe. Questo sembra proprio il nostro momento, insomma. Noi dobbiamo minare finalmente i regni dall'interno. E dove le stanno radunando? No. Oltre i confini della capitale, che presto andrà. Quanto presto? Beh, i barbari non è forse. Tu non ti chiami forse Barbara? Sì, Barbara. Esatto, infatti è una coincidenza incredibile. Mai sì. Troppo presto cadrà un covo. Ma neanche per poter. Basta, ho chiacchierato troppo. Devo picchiare qualcuno. Sì, tu quello devi farle chiacchiere. Chi comanda qui? La notte è eterna, no, ovviamente. Già. Risposta gracile, umano. No, no. Umana, appunto. No, forse quello che intendeva ragazzina. Barbara era... Ragazzina. Allora, ma che ti stacchi le braccia e le usi per grattarmi la schiena. Fammi vedere chi comanda. Chi vuole sapere? La ragazzina. Perché dovrei dirlo alla ragazzina? Io mi alzo e mi sposto un po' a distanza. Io gli faccio. Vedi? Cosa? Prendo il dito nella mano. Dov'è? Dammi la mano. Giulio è un po' preoccupato. Cosa hai detto? No, devi tirare i dadi, non devi tirare me. Dieci. Ok, praticamente se ti togli la mano mi rompe anche più di un dito, più di quello che gli volevi rompere. Aggiungerò la mia collezione. E questo inizia a urlare, cadendo a terra. Gli altri attorno. Sono sempre io che spammo. Un salladini ebrei. A quello sono io. Sì. Gli altri attorno estraggono chi le armi, chi si mette comunque un attimo a guardarti per capire. Okay. Sta comunque a voi. Faccio gli dico: se non volete finire come il vostro amico, fatemi parlare con chi ha il grado più alto in questo luogo. Scusate, c'è Arci. Non puoi avvisare il professore se ti sfondi il cranio con un disco di ghisa. E questa era ovviamente una citazione di Unstructured Ears. Questa è la citazione. Cos'hai detto che fa la tua pipa? Ancora? Sono andato una volta sola e poi ho deciso di fare i cerchi del cazzo. Farmi dire chi cazzo comanda. Okay. Doppio 6. Più ascendente, immagino. No. Power player del cazzo. Ah, ho tirato due dadi. Ogni volta che fate uno è una sciagura. Un tiro, ogni volta che fate 6 è un punto fatto. E me li segna qua sulla scheda. Sì, potete avere tanti punti fatto quanto la vostra caratteristica di... Ah, ok, aspetta, sciagura, allora io ne ho fatto sicuramente una all'inizio, che ho fatto uno. Però aspetta, era un... Ah no. Quando ho starnutito. E sei l'ho fatto dopo, quando ho fatto un raggirare, quindi ho uno e uno. Sì, però le sciagure mi sa che è Giulio che le usa. Sì, sono io. Quindi metto uno e uno. Quale caratteristica, scusa? Qua ne dà 6 di punti. Il massimo può essere. Può avere 6 una caratteristica. No, hai fatto una caratteristica. 16. 0 in totale. Volendo uno può avere 16 in un mega. Però poi devi mettere 0 nelle altre. Però se fai uno fai comunque la cieca. C'è una cosa seria. Oh, Mushi, guarda Sceo come ride invece di giocare con noi. Quindi Katta ha mazzolato. Gli ha staccato un stretto dito. La mano a uno, poi se è un così dito. Gracile che non riesce a reggere una stretta di mano. Pare avrà il punteggio di volontà. Volontà. E tanto sciaguri quanti sono quei figli consumati, quindi al massimo mi puoi adesso per te la testa. E vai. Ah, okay. Sciagura a te. Sciagura a te. Sciagura a te. Punti fatto quanto il tuo punteggio di volontà. Wow, sono fortissimo io allora. Se riesci a ottenere punti fatti. E può avere tante sciagure quanti sono i suoi figli consumati del destino. Ah, quindi una sciagura sola. Due. Punti, scusa, sono perso la cosa fondamentale. Punti fatti sono uguali a... Massimo è... Volontà. Ok, quindi due. Come quando spende un punto fatto, cos'è che fa? tiri un dado, no? Puoi uno incare nel caso degli incantesimi, usarlo per incantesimi, o ottenere, come un punto dato chiaro, qualcosa di trava, oppure aumentare... Ma gli incantesimi li possiamo usare a caso? Sì. E un, cioè uno se li guarda e sceglie... Sono delle scuole, mi dicevo... Non te li guardi neanche, nel senso sono le scuole, tipo... Sì. Carducci, sì, esatto. Non so, mi dici, voglio sciarmare, voglio fare un, voglio fare uno scudo, voglio lanciare una palla di fuoco. Ok. Però aspetta, durante una prova di virtù, dice, no? Pagina 28. Quando il dado lanciato durante una prova di virtù ottiene 1 o 6. Tu hai fatto una prova di virtù. La prova è la prova normale. Ah, virtù è vero, non è una cosa qualsiasi virtù. Sì. Ok, okay. Che cosa servono? Scegliere punti fatto. Uno di voi può rinunciare ad un'azione per aiutare un suo compagno a compiere qualcosa. Questo dà un punto fatto automatico al personaggio che viene aiutato. So, il puntifato, vuoi degli esempi? Possono essere, non so, stai attaccando, accecchi l'avversario, il tuo avversario rimane bloccato e non può muoversi, nessuno si accorge di te, hai fatto perdere le tracce, puoi muoverti due step, fare anche un'azione, trovi un oggetto che durerà poco ma che sarà molto utile, riprendi il piatto e recuperi una ferita, c'è qualcuno nascosto, lo individui, trovi una pozione, scopri il punto debole del tuo avversario, arriva un PNG in tuo soccorso, simili ad avere una specializzazione sul prossimo tiro. Questi sono alcuni esempi, ma puoi decidere veramente. Allora, quindi cosa è successo? Mi sono perso un attimo. Niente, catta Barbara appena spazzato. Cosa è successo? C'è qualcuno che sta cercando di forzare la serratura. Che cazzo dici? Che cazzo dite? Ragazzi, stiamo superando. Sentivo dei rumori come di qualcuno che armeggiasse con le chiavi. E spero di sì. Boh, ma sentivo veramente lì, cioè. Un ubriaco. Un'ottima scelta di quartiere, comunque. E questa sarà la tua casa per la prossima, per la tua vita. E solo quando ci siete voi comunque che succedono cose strane. Oh, è vero che sembrava che... Boh, adesso mi sono cristello. Ma no, non lo so, Dio, cioè può essere che, siccome qua ci sono varie, come si dice, bed and breakfast, magari qualche ubriaco, non sa, però... Va bene, quindi scusate, dicevate, Katta ha staccato il dito a uno. Sì, gliel'ha brutalmente spezzato. Porca troia. Va bene. Power player. Finalmente può fare il power player puro. Sì. Ecco. E allora io vorrei... No, non lo faccio neanche, non ne vale la pena. Ma adesso ho fatto una prova di intimidire, mi pare. Sì, lui cioè, vuole sapere chi cazzo è stoccato da parte di questi qua. Che però non è che sia, capito? Vabbè, mentre lui fa sta cagata, io visto che vedo il peggio... Vorrei usare la mia azione per fare per un round una barriera magica intorno a me. Ok. Tiro su volontà o sapienza? Volontà. Vuoi fare una barriera magica? Sì. Semplicemente una barriera che annulli colpi o altro deve avere che mi pari da eventuali persone che impazziscono e vengono su di me e non su Katta. È abiurazione, quindi puoi fare o vigore o volontà, scegli tu. Volontà. 26, roll, 4. 4 più 5, 9. Ok, credo c'è una piccola barriera luminosa che ti protegge. E mi tengo un po' in disparte frattempo. Avevo intimidito quegli altri che mi guardavano male. E tipo, ovviamente con fare spaccone dico: allora chi è che comanda qua? Gli devo parlare. Ok, sono tutti intimiditi. E la maggior parte scappa. Quello che sta. Ma quanti tenendo... sono? Quanti sono? Scusa. Un decino. Quello che stai tenendo per le braccia. Successo? No, ci ha mandato. Ma si sta schierando. Arcio, devi andare a letto. Esatto. Io Clodo paura. Clodis. Clodis. Quello che invece stai tenendo per quello che una volta era un braccio, adesso è una cosa che ha molta meno, diciamo, solidità. Beh, adesso. Staccato il suo dito. Ti dice lasciami parla, le tue sofferenze sono musica per le mie orecchie. Io sempre dietro la barriera dico: forse è meglio se parli, l'ho visto staccare tutte le dita. Io posso guardarmi intorno, cioè vedere gli altri come agiscono, per vedere se qualcuno che sta magari preparandosi invece magari a farci del male. Sì, allora la maggior parte è scappata, due o tre sono lì che in verità sono intimiditi da... Comunque lo lascio prima di staccargli. Lasciami qui comanda Bob. Bob non mi piace. Gine. Beh, fa la donna, facciamo una roba figa. Una roba progressista, chiamala Horst. Qui si comanda Coca. Coca-Cola. Chiamala Claudia. Ah, pensavo fosse Atlanta, Georgia. Qui comanda Claudia. Certo. Sina. Sorrada. Con le buone maniere si ottiene tutto. Minchia, i peggiori nomi da... Sort, bene, dov'è questo sort? Sortiamo. Sort è un nome femminile. Allo scoperto. Non si mischia con noi. Non si mischia di solito con noi. Noi andiamo da lui quando c'è bisogno. Tipo adesso. Voglio dire, no! E dove sta? In quella città, lontano, in una torre. Ok, grazie. Vedi, con le buone maniere. Perché... Vabbè, io sto lì dietro sempre. Bene. Il amici gracili. Il fratello... Aspetta, io mi avvicino a sto qua, per vedere se si può recuperare la cosa. Vedi, sorella... Barbara. Hai ragione. Sorella Barbara è un Balbera, sì, non sa ancora, è ancora deve insomma capire come cosa vuoi dire? Ancora deve prendere coscienza della sua fede nella notte eterna. Ma lascia che ti aiuti io, fratello, provo a curarlo. che però è una prova di mi sa vigore o qualcosa del genere. No, quello provo a steccargli il dito, immagino. No, non lo so. Merarci è scatenato. Ah, un incantesimo. Io, cioè, non è neanche un slot incantesimo. No, tutti possono usare l'incantesimo. Provo allora a usare un incantesimo con... cosa gli ha fatto il tipo? Il dito gliel'ha piegato, praticamente. Sì, provo, tipo, praticamente a fare un incantesimo di, che glielo rigeneri. Cioè, glielo rimette a posto, insomma, gli faccia scroccare, tipo, quella roba, tipo Harry Potter. Rigenera... No, non rigenerare. Se tu invece, che ne so, tenti di ricomporre tutte le ossa, sì, non rotte, ti do cura. Sì, non mi cambia molto, nel senso che sempre due ho. Però sì, sì, più quello in realtà volevo. Più, diciamo, tipo quello, che la pozione che danno. Ah no, quello per far crescere le ossa. Ma insomma, comunque, vabbè. Sì. Ah, 5 più 2, 7. Ce la fai... Gli fa male per mettere tutto insieme le ossa. Devi essere forte, fratello. La notte è eterna e anche scura. Ce la fai. Ma dal buio rilascia la luce. Ah, no, grazie. Questo non è caso. Grazie. La luce. Mi lontano da me, quella pazza. Sì, devi avere pazienza. Ascolta, dici che Sort è un appunto un personaggio cui ci si si riferisce quando si ha bisogno di aiuto. Pensi che ci potresti indicare la via? Perché noi abbiamo alcune cose importanti da sapere. Lei, come sai, è del nord, forse avrai notato, e vuole ricongiungersi appunto alle forze barbariche per dare nuovo impulso alla quell'asterica del mondo del nord. Lo so, però abbiamo bisogno che Sort ci dia una mano a contattare appunto queste forze che stanno combattendo questa gloriosa battaglia. Ma scusa, ha detto che è una certa in un certo posto, no? Sì. Sì, in una torre. Sì, però Sapienza. Un po' bravo. Ok. Yeah. Bam. 4 Aspetta. 9 Aspetta. Che ritira. Dov'è? Ho già tirato, è lì. Ma dov'è? Di 6, 5 c'è scritto. Sotto. Sotto c'è il mio coso. 4. E sotto ancora? Sotto c'è il coso del... 4. No, non c'è perché... Vabbè, comunque... Va bene, ci vabbè, credo. lo ritiro. No, va bene. 5. Sei comodo così. Ho fatto 4. Seleziona, ho impostazione, seleziona per risultato più alto. Senti. Diciamo che un certo tizio di nome Sort non è che tu lo conosca. Vuoi sapere la torre, credo, Salla. Sì, io volevo sapere la posizione della torre. Ah, ok. Sai dov'è? È in un bosco. Sai che c'è una leggenda che dice che in questo bosco c'è questa torre che appare e scompare gli andanti, e che quando compare porta sciagura e sfortuna. Allora chiedo di conoscere la torre, però non so se è presente in questo momento. Allora cambio un po' la domanda al tizio, nel senso che rimango sempre nell'impeto di cazzate che stavo dicendo, ma per chiedergli un po' come si può appunto contattare una volta lì, insomma, nel luogo. Lui contattano il fuoco. Mm. L'unica è andare lì e provare. Nessuno di voi proprio ha... C'è idea di... Cioè, dici che quando avete bisogno, però andate lì. Noi non abbiamo bisogno quando lui... Molto nobile ordina, da parte vostra. No. Quando lui ordina, noi abbiamo visioni, sogni. Beh, direi che possiamo andare o a cercare informazioni anche. Magari nella biblioteca. Lo chiedi, no, sto dicendo agli altri. Non so se c'è una biblioteca, non c'è nemmeno una locanda qua. Ah, non ci sarà il tempio, però. Però che non è una cosa buona, il tempio. Il tempio è malvagio. Cioè, buono. Uno saprà quanto appare questa torre. Va bene, grazie, fratello... Devi inventarti un nome? No, fratello... no, crisi. Bella! Bella! Fratello Benji. Fratello Benji. Fratello Tura. Ture. Ture. Ture. Ah, francese. Anche tu, anche un amico in Francia. No, è corso. È corso. Corso? Dove? Ture. Cosa dici? Sono senegalese al massimo. Bene. Umorismo francese. Sarebbe tipo meme. Non puoi fare una battuta se sei francese. Se sei davvero lo scherzo della natura. Vabbè, basta, dai. Razzismo modo. Anzi, no, razzismo. Comunque devo viverci. Dai, sono simpatici dopo un po'. Grazie, fratello Ture. Ma smetti di prendere poco. Fai sulle palestre. Cosa che c'è molto. La caccia non si ferma. Ok. Sì, ma tante canzoni frega, ce l'hai già tutti. Ma adesso hanno messo quello shiny. Ah, il Magikarp vuoi. Ma si vede che è gold da sub, da fuori? No, da fuori no, c'è il clicker. Allora sono spiegato adesso. Oh, amici gracili, abbiamo una destinazione. Sì, ma prima conviene sapere se la... E intanto annullo la barriera. Se la torre è presente. Non ti seguo. La torre compare e scompare. Hai ragione, allora è tutto ok. Cosa vorrei suggerisci? Chiedere a un tempio, a una biblioteca o a qualcuno che ne può sapere di più. Mi volto verso il tizio, è ancora lì? Ancora sì, però per andare. Amico, sapresti suggerirci chi è che conosce più informazioni sull'architettura di questo edificio? La torre. L'architettura della torre di sole. Bravo, sì. Nessuno che io conosca c'è mai entrato. Cito. D'accordo. Posso fare un tiro di sapienza per sapere se qualcuno in città sa qualcosa di sta minchiata? Non hai preso la base. Sto cercando di attivarlo. Vabbè, basta dire lo attivo. Buzz, devo fare un tiro di sapienza e se poi fallisco... Un tiro di sapienza se qualcuno... So che qualcuno lo sa, per esempio. Il tempio potrebbe saperlo. Oppure se io ho letto da qualche parte informazioni sulla torre. Vai. GG, well play. 4 e 5, 9. Tutte le volte che è easy sto gioco comunque. Sì, perché avete pompato tutti una caratteristica diversa. E usiamo solo quella. Quindi, ma se vi ho appena curato, poi avevo il 2, dai, uno che gira tutti, uno che sa tutto e l'altro uno che picchia, che picchia tutto. ma è così che si gioca a sti giochi, dai. Rega, dai. È giusto, cioè ormai che abbiamo una certa esperienza. Abbiamo passato i tempi in cui eravamo tutti guerrieri e tutti incantatori. Oppure che metti i punteggi tutti a cazzo, tutti uguali. Adesso ognuno di noi fa una cosa, bisogna parlare, parla uno, bisogna combattere uno, bisogna sapere le cose. Tra l'altro, secondo te... siamo anche in scala. Io mi metto sulle spalle e tu ti metti sulle tue spalle. Comunque, sai qual è la cosa? Sai qual è la cosa veramente bella? È che non si siano neanche messi d'accordo. Ognuno ha fatto semplicemente. Beh, no, vabbè, però adesso un po' di logica dietro c'era comunque, penso, no? Boccata, cioè, l'ha detto prima, io l'ho detto perché mi piaceva l'idea e tu forse hai fatto... Era tappato il buco. Ma io, no, mi sa che io all'inizio, io ho detto, io esatto, all'inizio ne ho detto due così che mi ispiravano. Tu hai sparato il saggio e lui ha sparato il picchiatore, allora ho detto, beh, allora ci sta quello che voglio fare, ci sta gli animassi. Quindi ci stava, tornava. I conti tornano. Vabbè. Quindi Giulio... Quindi cos'è che saggio il libro? Dicevo, nei miei libri, nei miei 213 anni di età, ho letto da qualche parte informazioni. Hai letto di... Il GDR è morto. Fai vedere la maglietta. Nome. Il GDR. Riposo in pace. Con la notte eterna. Hai letto di questa torre. Non sai chi sia Sort, ma sai che questa torre si dice che sia abitata dai cavalieri di Apropes, che sono dei cavalieri scelti dal demone Ubris per portare anarchia e disperazione sulla terra, velocizzando l'arrivo della notte eterna. Sembrano grossi, andiamo a picchiarli. Allora io vi dico sta cosa qua e vi dico che potrebbe essere prudente non immischiarsi in queste cose. E dov'è il tuo spirito di avventura, Memphis? Beh, se so già le informazioni, so che è pericoloso, sono sopravvissuto 213 anni, non cercando non vuoi forse vedere questi cavalieri? Sarebbe bello, ma non so se è sicuro. Magari possiamo convincere qualcun altro a venire con noi. Ah, aspettate che non ve l'ho chiesto, perché lui mi ha detto a cosa è destinato, a uccidere il re della sua tribù. Ma perché noi lo sappiamo? No, questa cosa qua? Decidete voi. E lo sappiamo. Io sono destinato a scrivere la storia delle storie. La storia più importante del mondo. Bullshit a caso. E cos'è, vuoi sapere tutto, Gigno? No, cos'è? Io voglio sapere la risposta della domanda fondamentale, ma quando la saprò sarà il momento della mia morte. Cioè non posso morire finché non... quel punto... Usa l'ultimo per sbaglio. Allora la domanda era: che cosa c'è per cena? Pollo. Ho saputo. Ma schifo il pollo. Morirò. Però è figo, dai. No, non lo voglio. Ma la domanda fondamentale, però, la sai o non la sai? La sai, ma non la vuoi dire. La domanda fondamentale è la verità assoluta. Cos'è la realtà? È la matrice, è Matrix. Ok. È 42. È la bomba termobarica. D'altronde è per quello che... Cioè, dal mio punto di vista è per quello che sono così vecchio, perché continuerò a cercare finché non troverò la domanda. Quindi in teoria dovresti smettere di cercare. Perché? No, io voglio saperlo. È la mia maledizione, la mia fortuna. Ah, vuoi sapere anche? Sì. Dopo un po' uno si è rotta anche le palle, giusto? No, vabbè, sì. Vabbè, comunque Ok, bene. Potrebbe essere comunque interessante se sapete la strada. Sei tu che sai le cose. Esatto. Memphis. Non ricordi? Cos'è che sapere, combattere, parlare. non usciamo, eh. Non c'è, non c'è, non c'è. Dalla regia mi dicono che so io le cose. Ok. Sai che ha detto che va a fare ogni giorno in un punto diverso? Me lo sono sognato, sta torre. No, ha detto che appare e scompare in un bosco. Potremmo provare. Però da okay, quello che ho capito, quando compare non è bello. Ma appare perché? Scusa, quindi per uccidere chi c'è in nascosto della torre, no? No, io da quello che ho capito appare a culo per fare casini indescrivibili. Ok. E possiamo provare a metterci in viaggio per la torre o metterci in viaggio per gli altri, che sono i cavalieri di Atrope. E che cosa sono? Dovresti saperlo. Sono cavalieri scelti personalmente dal demone Ubris per portare anarchia e disperazione sulla terra, precedendo l'arrivo della notte eterna. Ok, tutta questa cosa è collegata con la notte eterna. Noi non vogliamo che arrivi la notte eterna, ovviamente. Magari la risposta. La domanda mi serve. Sì, la risposta mi serve. Zitto, tu parli, non sai cosa. Ah, allora parlo. Allora aspetta. Sì, cioè, allora, o troviamo un modo per far apparire sta torre e proviamo a distruggerla se si può. Cioè, non ho capito se si può. E se no... No, ho capito perché dovremmo andare a distruggerla. No, il nostro obiettivo non era andare nella tribù della nostra amica e aiutarlo a seguire il suo destino. Ah, sì? Non era una cazzata che avevo sparato io per imbonire il tizio. No, il tizio ha detto esplicitamente che si stanno radunando i barbari, i regni dei barbari, sì, a nord. Sì, ma sono per la notte eterna, non l'ho capito. Appunto, il mio piano è uccidere il tizio. Uccidere il tizio che probabilmente sarà lì. Poi se nel mezzo impediamo la notte eterna. Cioè la notte eterna, tu vuoi uccidere uno inutile, esatto, perché... Ok, capisco. Cazzo, cioè, di storia, le storie. Potrebbe essere una bella storia. Sì. Va bene. Magari non l'ha più venduta. Ehi, il best seller dell'anno. Si comincia con cose piccole. Mi sa poi che non fai neanche il premio stesso. Pubblico la sua nicchia. E quindi, scusa, tutte queste informazioni che abbiamo avuto, che cazzo ce le facciamo? Dai, cerchiamo sta torre. Va bene, cerchiamo la torre, dai. Potremmo provare a portare un'offerta a sta torre. Prendiamo il bottino di questi qua. Ma io so che appare in momenti particolari, tipo se qualcuno la prega o se qualcuno offre qualcosa. Di solito sai che appare quando vuole, cioè... Non sono rituali per invocarla che tu conosca, però non è quando appare, di solito succede che è collegata ovviamente a qualcosa di brutto. Ed è sempre nello stesso punto. Sì, nello stesso, sì, sempre nello stesso punto. Beh, intanto potremmo dirigerci lì e vedere se l'assembramento di gente è lì vicino, se c'è qualcuno lì che venera questa torre, visto che appare sempre lì. Avrà dei discepoli tipo sti qua. Va bene. Dai, mettiamoci in viaggio. Facciamo provviste? Sì. Prendiamo, un carretto, cosa volete? Volete andare a piedi? Voi magari non riuscite a reggere il cammino con quelle gambine secche. Ho vissuto molto più di te. Il carretto lo tiri tu? Sulle mie gambine secche. Ma molto più lentamente. Il carretto lo tiri tu? Sì. Barbara. Va bene. Una domanda, Barbara. Ma tu sei sostanzialmente una versione Schwarzenegger donna? Di Arci. di arci, esatto. Oppure sei comunque una persona normale, proporzionata, ma semplicemente grossa, nel senso che no, è per quello che non l'ho disegnata, perché mi fa un po' schifo. Sono descrizioni. No, no, è... Nel senso... Sei tipo 2 metri. Tu puoi essere o un armadio, oppure una soldatessa super incazzata, tipo soldatessa. Ah, no. Una cosa non esclude l'altra. Però come no. tu dici, come aspetto fisico, sì, una, cioè, una massa di muscoli, cioè, magari una sorta di mostro, capito? Sì, presente Conan il Barbaro, il primo, non quella pippa del secondo. Però è donna. Con le tette. Cioè, ce l'ha già Schwarzenegger, anzi. Un'escrescenza che sembra. Schwarzenegger. Cioè. Esatto. Schwarzenegger con ormoni diversi e un po' più di barba. E i capelli rossi. Ma per il sangue dei miei nemici che mi danno schifo. Questo è quello che racconti, vabbè. Sì, in realtà è che non si lava. Puzzano dopo. A forza di bagnarsi hanno preso quel colore lì, è intrinseco. Bello, questo vuole la leggenda, questo è come la racconta Beth. Come è scritto nel libro di Cantore. E la puzza si alzava. Le mosche. La torre non sapeva dov'era, ma fuggiva innanzi alla puzza. Dicono tanto orrore. Beh, il sangue non è più. La legge è sgradevole, ma ci dipende. Vabbè, capito. Va bene, dai. Scusate, la suoneggiatria che nella strada fece un burro. Compreremo un carrettino e delle provviste. Se ci sta anche un cavallo. Se no, porta tutto Barbara. Scusa, se no facciamo, esatto, Barbara si prende un mammut e volevo dire un... Toglietemi 3 monete d'oro a testa. Okay. Da dove? Nei 25. Ah, ne avete 25 di base. Ah. E dove... sempre solito. Equipaggiamento, devo metterlo? Sì. Sono sprecati a far sta scheda, Quindi abbiamo preso un cavallo e un carretto. E delle provviste. Okay. Sì. E delle provviste per Barbara, che mangia come tutti gli altri insieme. Quindi esatto, 22, come si chiama la valuta? Monete d'oro. No, dai, dagli un nome, Giulio. Un nome Giulio. Vero. Almeno sesterzi. Non sei mai dritto. Dotterzi. Si chiamano i Giulio Draghi. Eternerzi. I Giulio Draghi. O Telomini. Telomini è il regno. Telomini. Due Telomini. Sì. D'oro. Telomini. Telomini. Telomini. Telomini. Telomini d'oro. Telomini. Vergognoso. Il simbolo è una T con le sbarrette, va bene. No, è fatta dire... Falce martello! Scusate, ho sbagliato l'epoca. Ma no, cos'è la faccia? È la faccia di? Di Giulio. Terzo. Certo, sui mercati internazionali sarà facilissimo da mostrare. Sul lato c'è la faccia di terzo. Una volta come faccio? Sull'altro lato c'è il simbolo del regno. Che? Che non si sa. Il simbolo del regno. Quello che mi pare. Animale a caso. Un'aquila. No. Ah, no, è tutto diverso. Un impero. Cos'è? Impero aquila. Un'associazione di idee abbastanza. Ok, direi che ci incamminiamo. Raga, che problema avete? Cazzo, poi ho sentito un suono strano. Cioè, fammi capire, ora ogni sessione avremo a quest'ora alle 23:30 un è casino paranormal. Cioè, la polizia, uno che qualcuno che ha suonato l'altra volta oggi, tra sì. Quello che maneggiava con le chiavi e i versi adesso. Vabbè. C'è qualcuno che sta parlando. Non ne posso più di questi idioti che parlano di cose stupide. Oh, rega, ma se chiamassimo la polizia? Cioè, non vorrei che si stessero giocando ai giochi di ruolo. Va bene. Okay. Ci incamminiamo. Ok. Qua c'è un tiro carrettiamo. Cosa ho detto? C'è un tiro per l'esplorazione o qualcosa? No, non c'è un tiro con me. Semplicemente delle incamminate e succede un po' da quante sventure avete? Una. E c'è il tu non hai il cazzo? Ah, tipico, uno sciagura. Un fatto. Io ho un fatto e una sciagura. Io non un cazzo. Tu sai cose, cazzo, cosa vuoi avere? Vai nel personaggio. È vero, io so cose. Sì, è facile questo gioco. State facendo una missione pericolosa, chi è il master? Non l'avevo ancora visto. Meraviglioso. Grazie. Non potevi giocare, però. L'ho già ripostato. Se solo avessi immaginato le potenzialità di Hobbit. Ho già condiviso sulla pagina. No, aspetta, sarebbe il meme effetto, secondo me sarebbe non è facile. Non è facile dire no quando Cattabriga fa, quando Catta fa il power player. Vabbè, dirigete verso nord, dove è stato indicato. Sì. Sapete che c'è attorno. Entrate in un bosco. Il primo giorno passa tranquillo. Cedete, mangiate. Vedi, lo sapevo che questa strada cagnate. Era sicura. Cagnate. Tu sei sempre tutto, Memphis. Beh, di solito. Mm. Tranne la capitale del Tennessee, che forse però è Nashville. Il secondo... Provinciale. Hashtag provinciale. Arriva la sera, fate il turno in guardia. Ma credo che Barbara farà più di un turno di guardia. Ci penso io a proteggere questi poveri. Vabbè, dividiamoceli, tanto io sono anziano e non dormo molto. Va bene. Dividiamoci. Ok. Così la sciagura può capitare il mio turno, Giulio. Esatto. Il primo lo faccio io, poi mi metterò a dormire, guai chi mi svegli. E se ci fosse tipo terzo. Un'armata di carri armati, io faccio dragueschi. Terzo. Quindi chi stai? Tu il primo e il secondo? Sì. Ok, va bene. Basta la notte, non succede niente. No! Che strano, avevo la sensazione... Mi svegliate già. Sì? Come, scusa? La polizia. Ah, vabbè. E, potrei fare un incantesimo di anzi applicare la mia scienza per sapere qualcosa in più sul percorso da seguire. Ma il percorso per noi è chiaro in teoria o no? No, se è sicuro. Ah. Sì. Sì. Va bene. Ok, allora domani. Ciao. Va bene. Digno voleva usare un conoscenze funghi. per fare una zuppa. La mattina, durante il mio turno di guardia, volevo preparare un incantesimo di divinazione per sapere qualcosa di più del percorso davanti a noi. E faccio un tiro di sapienza. Sarà il caso. Ah! 2 più 5, 7. Vabbè, per te ce la fai, prendi la sciagura. Cioè, non esiste via di mezzo. Sai che dovete continuare ancora per 2 giorni. Oh. la luna vindicherà la natura a un certo punto. Ok, allora quando loro si svegliano gli porterà fortuna. Gli dico, signori, ho meditato e abbiamo ancora 2 giorni di cammino, dovrebbero essere abbastanza tranquilli. Quando dici 2 giorni di cammino, intendi cammino tuo o cammino, cammino. O cammino nostro? La taglia non è importante, è la mente che guida l'uomo. Se non avessimo il carretto, secondo me saremmo ancora dalle rovine della città, se fosse per il tuo passo. Ma va bene, capisco quello che vuoi dire. Credo che comunque il mio passo sia abbastanza veloce. Sì, rispetto a quella di una lumaca a cui hanno schiacciato vedi, i guscio. Vedi, riesci comunque a trovare paragoni. Questo è bene. Tuttavia, mentre noi parliamo, quella lumaca ti ha appena superato. Non è la velocità che influisce sulla destinazione. Accelerazione, dillo, ti prego. L'accelerazione. No, non è la, non è la velocità che influisce sulla posso capacità. Contenere più della persona. Non è la velocità che influisce sulla capacità di arrivare a destinazione. Va bene. Piccola barba bianca dice che dobbiamo camminare e andare avanti per 2 giorni. Gambe e spalla. Dani, spalla. Andiamo. Ok. Io salgo sul carretto e andiamo. Ok, proseguite. Ma cazzo, mi calcoli, non ho più a piedi. Vi accampate sempre la notte, normale. Se è eterna, sì, se no... Sì, non abbiamo fretta. I turni sono gli stessi. Sì. Ma scusa, ho una domanda per il gioco. Non c'è un modo per cambiare la difficoltà dei tiri? No, perché le caratteristiche non aumentano. Esatto. Vabbè. È tutto fisso. No, sta a te è successo. È tipo Dungeon World, ok. È Dungeon World, però qualcosa... no? No, è che Dungeon World la percentuale di insuccesso o insuccesso parziale è più alta. Però c'è un certo punto che se sei salito abbastanza fai fatica a sbagliare alcuni tiri. Sì, sì, sì, sì, no, ma infatti, cioè, sì, sì, sì. Perché Dungeon World, se non sbaglio, si sale quando fai cagare. Esatto, e di solito tu potenzi l'abilità primaria e fai tiri su abilità primaria, quindi è sempre più difficile sbagliare. E poi dopo un po' cominci invece a farne di tutto, così sai lo stesso. Esatto. Ah no, quello ero io uccide. Che giocavo così. E poi il master ti uccide, ti taglia le braccia, ti fa queste cose. Ma cazzo, ero fortissimo in quella... Ah sì, è vero, avevo un braccio... Beh, un braccio figo però avevo. Ti ho staccato la mano in 2 sessioni, va bene. È bello però. È un grande. È un grande. Un grandissimo. Va bene, ci accampiamo. Sì, mi accampate e proseguite per i giorni di viaggio tranquillo. Arrivate alla fine alla radura che è Salla, che scusate, Memphis, sa essere quella... Della torre. E la torre però... Ed è un grande spiazzo di un centinaio di metri di diametro dove non c'è nulla. Cioè terra brulla. E questo è il posto? Sapientino? Sapientino non c'è più. Addormentato il vecchio. Piccolo Memphis. Scricciolo. Cucciolo. Cucciolo. Cucciolo. Non possiamo saperti. Possiamo combattere. Però. Possiamo parlare. E vabbè, proviamo, immagino, a camparci qua in vista e vedere se succede qualcosa. Non c'è qualche segno particolare, qualche teschio, qualche spuncione, qualche... Scusate, mi ero appisolato un secondo. A quest'età non sempre si tengono gli occhi aperti. Già, ci sono volte anche in cui chiudono gli occhi e poi tendenzialmente non si riaprono più. Posso, la chiamano la notte eterna, ma personale. Comunque mi pare che siamo giunti a destinazione. Purtroppo la torre non c'è. Curioso, però la torre che dicevi non c'è. Suggerirei di appostarci in un posto riparato. Ma qualcuno di noi può verificare se... Io purtroppo sono sul carretto e mi fatica a scendere. Se ci sono carretto, tracce... Se ci sono tracce di passaggio nei dintorni. Sì, dai, cerchiamo qualcosa, tanto non abbiamo un cazzo da fare. Come si cerca? con prudenza? Scrivimi cosa... Beh, possiamo farlo anche tutte e due, tranne Ciccio, Ciccino, Piccolino... Purtroppo la mia vista non è più quella di una volta e dal carretto non riesco a vedere. Quelli che mi hanno adottato hanno uso in giro. È vero che lui c'ha sta cosa. Okay, lei c'ha sta cosa. Che schifo. Io invece semplicemente cerco un po' delle tracce in giro, basandomi su quella che è un po' la mia conoscenza della vita nei boschi, eccetera, che comunque ho avuto occasione di fare. Non è che abbia grandi competenze. Io uso prudenza? Uno può aiutare l'altro o lo facciamo insieme queste cose? No, se uno vuole aiutare, okay. Io vi aiuterei, ma la mia vista non è quella di una volta. 6 più 2. Giusto. Potrei aver tanti punti fatto, ma non di volontà. Per questo andrei. No, ah no, non l'ho messo a volontà perché dico, boh, come personaggio ci sta che abbia la volontà. Sì, sì. Sei uno. Sapienza. Direi che ha senso. Senti odore di cena in un punto particolare o diffuso? Pratica emana dal centro dell'armatura. C'è odore di cenere di morte che viene dal centro dell'armatura. Sei proprio immedesimata nelle fratelli della rotta eterna, parli come loro adesso. Io invece non ho trovato un cazzo, il che mi fa pensare... Ora questo odore copre questo certo. Persino la puzza dei tuoi capelli impregnati di sangue. Che schifo. Pensavo fossi tu, però, a dire la verità. Non abbiamo una grande differenza rispetto a... Io sono abbastanza geloso che qualcuno puzzi di morte. Noi non sentiamo niente perché Katta offusca. Tutti... Guarda che sei bollato, lo puoi dire, eh? Non è che inventarti delle cazzate. Te ne saresti accorto, credimi. Ecco. Va bene. Quindi cosa percepiscono i vostri sensi giovani? Il male viene dal centro della radura. Ottimo, possiamo andare a vedere che cos'è. Barbara spacca! Seguo il Lolezzo fino alla sua origine. Lolezzo, non puoi come si combatte? Io la seguo sul carretto lentamente. A quel punto sbatti dentro qualcosa e non vedo niente. Muro invisibile. Ma riprovo. perché non capisco cosa sta succedendo. Sapienza. Capire che cosa sta succedendo. Qual è il problema mentale di Barbara? Esatto. L'aria qui è più dura, ma non sarà certo un problema. Ancora con ste dure. Ho tirato, ma... 9. Pensavo... Ecco. Diresti che è una sorta di illusione. Ah, ferma Barbara. Illusione permanente. Mi avvicino. Questa regolaria tipo... è questa. Scendo dal carretto, mi avvicino e faccio così per vedere meglio. Potrebbe essere questa una magia di illusione. Cosa si mangia? E no, mia cara Barbara, non si mangia. Prova! Probabilmente sento tipo mattoni. Sì, rock, senti. Probabilmente... la torre scompare e compare letteralmente, solo l'immagine, quindi rimane sempre su questa esistenza. Potremmo cercare un'apertura, una porta, qualcosa. Non sta parlando con te, sta parlando con voi. Sì. No, scusami, sentivo una voce e non vedevo da dove arrivava. Guarda in basso. Sì, potremmo cercare un'apertura se tu sai le cose, ma mi aspetta un'idea. Sì. Prendo una manciata di terra e la, la tiro contro me. Se sei libero. Grazie Barbara. Aspetto che si depositi sulla roccia per vedere un po' la... Sorprendentemente intelligente Barbara. Me l'hanno insegnato gli orsi che mi hanno adottato. Non erano lupi. Per un attimo... quando scapperai le gambe levate direi che invece erano qua, la capiremo. Esatto. Per un attimo vedi un contorno stimato, ma poi... Vi invito a essere prudenti, perché noi non li vediamo, ma forse loro vedono noi. Quindi suggerisci di gridare ad alta voce perché si mostri, non mi sembra un ottimo idea. Beh, lascia che noi ci spostiamo mentre tu fai questo. Non è esattamente... è per migliorare l'acustica e non per altro. Se lo dici tu, io sono poco studiato. Figlio di Barbara, non c'è migliore acustica? Ci urla contro una cosa invisibile. Vabbè, nel dubbio io torno sul carretto. Ci spostiamo un po' e vediamo cosa fa Barbara. Continua a tastare. Finché non tocco qualcosa di diverso che dalla roccia. No, è tutta roccia. Faccio il giro, tipo. Quindi è bello, è grande sto posto. Sì, la torre sa... 10 metri di diametro. Se non mi ricordo male, avevi detto qualcosa riguardo... No, anzi 20 metri di diametro. Avevi detto qualcosa riguardo alla luna. Per me vuol dire che bisogna prenderlo a mazzate, però forse tu hai un'idea diversa. La luna ci mostrerà la radura. Intelligente, Barbara. Ma non la torre. Possiamo aspettare che faccia notte. Considerato che voi abbiate trovato la mura in seguito a tutta la cosa. Va bene, allora campiamoci in modo strategico. Vai, cerco un punto strategicamente conveniente. Prudenza? Posso aiutarla in questo? Devo dargli il punto fatto. No, cosa succede? Ma però non perdo il mio, o sì? Allora prova ad aiutarla o prudenza. No, cioè gli dai praticamente, credo sia gli dai gli effetti del punto fatto. Sì. Il tuo aiuto va bene, vale facciamo. Come un punto fatto. Facciamolo. Cioè, l'aiuto. Ok, quindi cosa succede quando c'è un punto fatto, ricordatevi? E quando lo si usa? C'è qualcosa di positivo. Ok. Allora troviamo un ottimo posto riparato e nascosto dove osservare. Oppure mi sa che puoi avere vantaggio. Oh, un altro 6, cioè vabbè, sei un... Se ti aggiungi un altro punto fatto lì. Riempito la scuola. Mamma mia, loppi. Raga, questo gioco è facilissimo. E quindi vi piovono addosso monete d'oro. Andiamo. ok, no, trovi un posto a poco distante dalla radura, c'è diciamo una sorta di massi e alberi che hanno una sorta di recinzione. E in più trovi, non so, dimmi tu un punto fatto. Che ne dite di un gruppo di tre cultisti che stava venendo qua? No, secondo me entrare. Ci sta, secondo me ci può stare, però secondo me ci può stare anche una radura, ma anche un posto sicuro dove lasciare il carretto, così non ce lo portiamo dentro. Trovo un percorso con una veloce via di fuga. Un centinaio di metri dalla radura dove c'è la torre, c'è questo spiazzo. No, se no va bene anche i cultistini. No, vabbè, adesso intanto vediamo che cosa succede di notte. Vedi i cultisti? Magari potresti fare qualcosa anche di più tricks, tricky. Che ne so, un libro di magia nera. No, io dicevo un punto dove lasciare il carretto. No, quello sì, mi è bello, però magari sarà tipo, alla fine lo decidi tu come usarlo, alla fine, giusto che scegli tu. Mi era aperto anche una suggerimento. Boh, sì, c'è tipo un, che ne so, trovi qualcosa che magari ci può aiutare dopo a combattere sti tizi in caso, tipo un libro nero che magari ti dà la possibilità di... Cioè, l'ho usato da mani sapienti. Cioè, per me la cosa migliore che mi può succedere è trovare per terra un pezzo di carta con, cioè, anzi, un pezzo di una mappa con su scritto il posto in cui si radunano. Torre. Qua tu sei qui. Voi siete qui. No, cioè, la cosa ovviamente, tra virgolette, bilanciata è che c'è solo quel pezzo di quel posto lì, ma non so dove sta poi quel posto lì nella mappa del mondo. Vabbè, ma noi sappiamo dov'è la torre di fatto, cioè dove sarà. No, dove si radunano gli eserciti di barbari, ti ricordi? Ok, una traccia di... È quello che interessa a me. Ah, boh, vai, fai quello che vuoi, Kappa. Ok, sai che si stai che trovi un foglio appicciato in cui c'è scritto sostanzialmente che si stanno radunando a 3 giorni di cammino verso sud, a sud del santuario della notte eterna. Vabbè, e poi aspettiamo notte del santuario della notte eterna, a sud del santuario. Però noi non ci saremo mai. No, non è che si era da un tratto. Ah, no, ok, sì, capito. Va bene, e aspettiamo la notte. Vediamo cosa succede. Sì. Aspettiamo. Ok. A un certo punto... Mm. Sciagura a me. Sciagura. ho tirato un dado. Quindi non è sciagura, peccato. Sì? E chi era la porca miseria, tutte le volte 1, 4 totale. Cioè, e anche... secondo punto è sciagura. No, ah, non ne ho? No, solo uno. C'hai cioè, anche la... la cosa che puoi, come la, la psiche, cioè, come si chiama? C'è una roba che prudenza puoi... ho tirato sempre tipo tra l'1 e il 2. Sì. Sì, che ti riduci il punteggio, però... Ops. Te chi dai sti idee? No, è per te, vero? No. Smare proprio destino. È tipo sforzarsi. Massimo sforzo. In caso di tiro fallito, un personaggio può impegnarsi e sforzarsi per riuscire comunque in quello che stava provando a fare. Dato che si può plasmare il destino solo se non si è ancora tirato il dado, questo potrebbe essere l'unico modo per riuscire in un'azione dopo aver già tirato il dado. Sforzarsi per riuscire a fare qualcosa vuol dire aumentare di uno il tiro del dado, abbassando però di uno il punteggio della virtù che si sta utilizzando fino alla fine del combattimento della scena. Non serve comunque. Va bene, faccio 4 totale, quindi lo vedo. Ok. E mi accorgo. Io qua esco di scena, direi. Dove ne sai? Dal terreno sbuca una figura corazzata. Ma dal terreno davanti a noi o nella radura? In mezzo a voi, mezzo a voi, dove siete. Cioè, non capisco se intendi in mezzo a noi dove siamo nascosti o in mezzo... In mezzo a voi. Ah, ok. Cioè, quindi lo vedo solo io perché sono l'unico sveglio. Sì. E niente, tipo dico, oh merda, merda, merda, e sveglio gli altri. Ah, oh, bravo, ragazzi, te l'avevo detto, cosa succede che mi sveglio? Che c'è? Okay. E vabbè, non so, posso fare altro, no? No. Cioè, puoi muovere e fare un'azione, svegliare gli altri. Muovo, diciamo, cercando di essere a distanza di sicurezza, quanto possibile. Okay. Sta lui? Che... E vedi che si tocca l'armatura con una mano. E l'armatura sembra diventare più in qualche modo più solida. Ma com'è questo? C'è un normale guerriero? Mi ricordo la testa e quindi è un'armatura completa. Ah, ok. Tu vedi che si tocca l'armatura che non so come dire esattamente. Sembra di dare più, in qualche modo più impenetrabile. Sì, sembra di diventare più spesso. Va bene. Gli altri sono svegliati? Però, sì. E al contempo un altro, vedi, che sta avvicinando dalla radura. E vabbè, io provo a parlare con questo personaggio chiedergli che cosa vuole da noi, insomma, perché cioè, noi alla fine siamo qui per testimoniare della grandezza della notte eterna e vogliamo sapere come, cioè, non c'è motivo, insomma, di entrare in collisione, ecco. E però provo tipo a sciarmarlo con un incantesimo in questo modo, dicendogli queste cose qua, si può, cioè, oppure no, la fabula e basta, oppure semplicemente lo come? Sì, per tipo, cioè, bloccarlo, tipo confonderlo, sì. Okay. Quindi devo fare un tiro con ascendente, giusto? 6 più 5, 11. E mi segno un punto fatto. Allora, i punti fatto possono essere usati per potenziare gli incantesimi, farli durare di più e colpire più bersagli. Se no duravano tutte le cose, non vanno. Va bene, allora lo usiamo, dai, per... Può arrivare anche all'altro? No, facciamo che dura di più per questo. Okay. Cioè, non ho capito bene esattamente il funzionamento, però immagino che, cioè, rimane tipo così un po'. Due round. Ok. Ok. È un elemento per me di prendere il piano più della prima riuscita. Diciamo che lo convinci a non attaccarti, diciamo. Di fatto. Come? Per lui possiamo essere dei fedeli che lo sì. Quindi proprio adesso che c'era da menare le mani devo trattenermi. C'è l'altro. Puoi legnarlo lo stesso. Che servicide. Oh, saggio Memphis, cosa suggerisci di fare? Io non mi intendo di queste cose. Tu sai le cose. Io posso usare un incantesimo di divinazione per vedere se è in arrivo qualcun altro. Oltre a questi due. O altri pericoli immediati nel prossimo round. Ok, è prudenza. Prudenza? Dai. Vabbè. Per i pericoli. Va bene. 2 e 2, 4. Fallito. Niente, non lo sai. E non ho idea di come agire in questo modo. Mi rimetto alle tue capacità. Barbara. Beh, spazza questo e ti riesci a bloccare. No, non lo so. Va bene, cosa mi costa? Cioè, non so se devi perdere turni per prendere roba, eccetera, okay, o per attaccare però direttamente. Una volta per combattimento. Ok, no, vabbè, lo attacco normalmente. Ma tu c'è. Cioè, lei può andare diretta così? Sì. Ma lì è la legna. No, nel senso che magari doveva mettersi armatura. Prendo la mia ascia. I miei muscoli sono la mia armatura. E, armi da taglio. Potete anche dormire con l'armatura. Tiro due dadi. E prendo il più alto. Direi che prenderò 5. Quindi più 5, 10. Ok. Arma a due mani. C'è... Dove? Ah, è qua. Ok. Colpisce nonostante tutto. Questo era due. nonostante la senti che in verità l'arma se la sua armatura fa molta resistenza, non te ne interessi, capisci che hai morso la carne. Ah, un sapore del sangue. È un essere vivente. Sì. No? Sta a sala? No, l'ho già fatto. L'ho già fatto. Lui prende il tasso di un picchiaio, finisce. Fai del tuo peggio. Tira fuori una spada e niente. Tira fuori però, questa è la spada. Questo è il meglio che sai fare, ma non è questo. Questo è il giorno. Mentre l'altro avanza e ti attacca. Già qua che c'è verità. Hai ragione, un po' distante. Arriva lì. Ma quindi scusa, sì. Ho una domanda. Le magie le posso spammare? Sì. Fico. Però durano solo un round. Sì, e fanno anche solo un danno, però è fico lo stesso. Vorrei convincere il fuoco da campo che abbiamo a dare una fiammata a uno dei due. Ok. Figo. Quindi elementalismo, sì. Volontà. Spammi, sì. Vai. 2 più 5 7 Vai, fiamma. Vedi che il fuoco si protende verso quello che ha già colpito Barbara. Questo però alza una mano e prende fuoco. Diventa 5 al fuoco. E brucia, brucia. E però fa una barriera che lo protegge dal colpo. Quindi questa era la sua risposta. Peccato. Sta di nuovo, c'è ancora un video. È carino il sistema, così. Cosa mi racconti? Allora, io potrei... Ma, tipo, ho una domanda. Vez, visto che è un cantastorie, potrebbe fare magie di tipo buff? Per potenziare Kat? Esatto. Sì, sì. Dice che effetto vuole fare. E... Cioè, sì, però a livello di meccanica... No, secondo me tipo ispiri i miei muscoli ad essere più grossi e... Un tiro di volontà comunque potrebbe essere. Oppure anche ascendente forse. Comunicazione. Sì, è uno di quei due, tra ammaliamento e comunicazione, penso. Perché non so. Altro non può essere. Però il discorso è a livello di meccanica quanto posso spingermi là, cioè nel senso gli posso dare un tiro in più per colpire, cioè un attacco in più tipo, non forse ti può aiutare, gli dà dei danni in più, punto fatto, un punto destino da no, ora o sì un attacco. Cioè aggiungere un danno in più potrei dire ok, però per aggiungere un danno in più o lo pompi. Ok, invece ok, tipo sicuro con ammaniamento, ispirare coraggio, no? Funzionava così ai bei tempi. Sì, però non è che se non è come Dungeon and Dragons dove il bardo suona e fa più danni, la gente non fa più danni. Ok, no, ce l'ho allora. E provo a fargli ammaniamento al tipo. Praticamente gli dico: non riconosci forse il tuo padrone? È la nostra eterna quella davanti a te. Poggia le armi a suo cospetto e inchinati. Gliel'ho lasciata in faccia. lo fai su quello che si è avvicinato o su quello che è stato colpito? Allora, quello che si è avvicinato o su chi è andato? È appena arrivato, appena non ha andato contro nessuno. Lo faccio su quello colpito, quello che è contro. Ah, beh, però c'è ad esempio cambiare una spada in una fiamma. Sì, infatti è quello che volevo castarti dopo, Kat. Ho fatto 3 più ascendente 5, 8. Cioè, fondamentalmente, noi siamo 2 support e un fight. Beh, giusto. Lo convinci e vedi che lui mi. È stranito, evidentemente stranito. E... getta la tua arma, inchinati davanti alla potenza della notte. E abbassa la spada. Oltre a non essere più in posizione, diciamo. Bene, riconosco quindi il. Mi muovo un po' più in là io. Riconosco il suo gesto, il fatto che lui riconosce la mia superiorità e quindi carico l'altro. Usando la mia bazza del filo del destino, il suono dell'inevitabilità, che fondamentalmente carichi uno in una maniera ignorante e il primo attacco colpisce automaticamente, se effettuo una prova di vigore con successo il colpo infligge una ferita in più. Okay. Quindi prova di vigore 2 più 5, 7. Basta fare le cose che uno sa fare. Stiamo buggando il gioco. È tipo un off tank con 2 support. E quindi abbiamo rovinato il gioco in una sessione. Ma no, dai, cioè, è carino comunque. Il sistema è carino. No, sì, vabbè. Cioè, è molto narrativo, non è male. Tiro dell'armatura. No, è un tiro virtù, giusto. Ok, vabbè. Quindi fa 2 danni. Una mega mazza. Mega mazza. Cioè, ho dominato e tu ti fai andare a colpire. Ah, no, ci starò, ho colpito anch'io. Tipo uno dei personaggi di Dark Souls. Scusa, tu quanto hai di vita, Kat? Quello che 7 ora 5. Quello tutto in armatura pietra. Sì. Non è così, ha solo quella mazza. Ok. Forse però dovremmo provare a fare anche dei danni a un certo punto. Io ci ho provato, me l'ha parato. No, sta di nuovo voi. Allora, secondo voi è meglio cambiare l'arma di Kat o cambiare l'arma del tipo? In un baguette. Tipo? Forse l'arma del tipo. Ma l'arma di Kat poi farà un male porco. Ah, boh, non lo so. Va bene, vorrei... Se io tramuto l'arma di Kat fa un danno in più a livello di meccaniche o è solo più bella da vedere? Tipo fiamma. Fiamma o da fuoco. Migliora l'armatura. Non può tirare l'armatura per vedere se è assolto. Allora faccio così, provo un tiro di alchimia per cambiare parte dell'arma di Kat in fuoco. E tiro 2 di 6 su volontà. Sì. Praticamente è sempre la fiamma che lui mi ha parato, devia e va verso l'arma di Kat. La lascia. Fai avvolgere. Esatto, lascia. esattamente. Wow. Ho fatto un 1 e un 6, direi che prendo il 6. Vale come punto fatto. Vale come punto fatto. Quindi poi farà durare un round in più. Gli faccio fare un round in più. Sta a me, no? Devo fare io l'altro support, giusto? Ah, a livello di gioco io proprio parlo con la fiamma. Tipo, vai avvolgi io invece, l'arma di Barbara. Io invece con un incantesimo di comunicazione provo a fare una sorta di a parlare con, nel senso nella mente del tizio che, con cui sta combattendo Katta, e di dirgli, vabbè, più o meno simile a prima, però dirgli di dirgli getta l'arma, lei è la prescelta della notte delle tenebre, getta la tua arma ai suoi piedi. Okay. E tiro. Wow, 6 più 6 e 6 più 5, 11. OP, punto fato. E vale anche per l'altro. Ma poi chi attacco se si prossima? Chi se ne fuori? Gli ammazzi, non lo so. Sì, getta la tua arma ai suoi piedi, cioè, non riconosci, cioè la prescelta della notte. Io non attacco quelli nervi. Buttano le armi. Che cazzo dici? Fai quello che... ti abbiamo dato tutto. Vabbè, hanno buttato le armi, poi comunque stordirli. Okay. Hai una cosa per due turni, cioè poi... Ma non è onorevole. Ma che sei un barbaro, mica un cazzo di cavaliere Jedi. Tradizione del mio popolo, voglio combattimento. Ma allora ti buttano il bambino giù dalla rupe, ecco, può difendersi il bambino, cazzo dici? E così cresce. Poi ti hanno cresciuto i lupi, ma che cazzo di problemi c'hai? Gli orsi, oh, però non me li mangio questi. Le rane. È tipico del combattimento fra rane. Vabbè, Katta, dopo li puoi seppellire se vuoi. Ok. Sta a noi. Quindi a me. Sì, ti abbiamo dominato. Mi avete dominato. Cioè, ti abbiamo detto. Va bene. Cioè, più baffi, così non li potrei morire. L'ultimo che ho attaccato, gli do l'onore di una morte onorevole. Se lo colpisci. Se lo colpisco. Però. C'è un 6, quindi. Posso usare il fatto. Sì. E per fare un danno in più. No, altre cose. Disarmarlo. Per non fargli tirare l'armatura. La quella c'è già la fiamma. Ah, già la fiamma. Ok. Riprendi piatto e recupera una ferita. Oh, va bene, recupera una ferita. C'è bello. Ci sta. Come i vantaggi. Recupero, esatto. Un punto strain. oppure recupero uno strain. Ok, sta gli altri due. Ah sì, perché è vero che li abbiamo buggati. Perché loro non agiscono. No, perché io ho detto di gettare le armi. Vabbè, allora io scendo dal carretto e gli do una mazzata in testa. Usciamo un po' dagli schemi. Gira e ti apre due. Cosa devo tirare? Accuratezza, descrivimelo tu, dimmi. No, più che altro no, perché dopo io ho tipo 2 di vita, quindi se mi colpisci mi ammazzo. Vabbè, accuratezza. No, anzi, lo faccio con forza, vigore. Usa il punto fato. No, l'ho già usato. 2 più 2, 4, mancato. Non sono più come una volta. Anche perché adesso finisce il coso. Ho capito. Katta lo eliminerà. Che cazzo devo dire? Su quale sei andato? Su quello ferito di più. Ok. Grazie. Quindi ce n'è uno su cui sono Katta e Memphis, sono Memphis e Barbara, e l'altro invece è lì tipo che sta in adorazione di Katta. Mi rivolgo con l'ammaliamento a quello che è lontano e gli dico di rivelarci la torre. Non si vede, no? Da dove sono io? Non so. Di chiamare il suo chi vuoi chiamare? No, il suo signore cosa, Barbara, ma cosa? Cazzo chiama? No, di rivelarci la torre, perché abbiamo cose importanti da dire a Sort. Alla pietra. Cioè, dici di far comparire la torre? Sì, cioè di aiutarci a rivelare la torre, perché è il momento per la notte. Per gli eletti della notte eterna di entrare in contatto con Sort. Posso fare? 3 più 5, 8. L'unico tiro mancato è quello in cui ho dato una mazzata al tipo. Catta, legnalo. Sto aspettando. Aspetta che c'è la sciagura che Giulio mi piazza. Ne arrivano altri 50. Allora io me ne vado. Teletrasporto. Ciao. Vabbè, con un buon tiro posso fare anche altre cose in realtà. Fumi la pipa. No, tipo potrei spostarlo. No. Con prudenza. Alla fine mi basterebbe. Quanto hai fatto? 8. Lo convinci e lui quindi. Ha fatto un paio di cose. Vedi che allunga la mano, pronuncia delle formule che non capisci e è una torre come ricompare. L'altro prima tocca a Catta. Catta no, ha colpito? No, ha fatto un turno solo, non due. Oddio, quello in cui ho fatto questo qua, in cui ho fatto 6, in cui mi sono anche curato. Non era sempre questo. Non ne avevi due di turni. Io ti ho potenziato l'ascia. Sì, mi sa che sta a te adesso. Io ti ho potenziato l'ascia, hai per un altro round, cioè questo qua. Sì, sì, non ha fatto. Sì, sì, quando starà lui. Non adesso sta l'altro, che era lì. No, quello che dice è che non ha fatto in questo turno. Cioè in questo turno abbiamo fatto io e Salla, ma non Catta. Cioè si sta tutti noi insieme. No, aspetta, in questo turno Salla... Aspetta, in questo turno Salla... Nel turno Salla. Prima... Salla. Ha provato a colpire col bastone. No, ma... Io gli ho fatto sta roba qua e tu? Esatto. Ah sì? Nel turno prima Salla ha fatto un impegno, lui ha colpito con 3 danni. Esatto, okay. In questo turno invece Catta non ha fatto una sega. No, è questo che voglio dire. Esatto, io non Salla, Catta. Ho attaccato una volta. Che era prima. E questo è il secondo turno in cui l'ascia infuocata e lui non ha ancora attaccato. Ah, perché ha fatto prima. Okay. Sì, perché allora, facciamo prima. Secca quello davanti a me, grazie. Sì, no. Dalle mie conoscenze è una buona idea eliminare il nemico finché sei ancora vivi. 3 più 5 8 Ma quindi abbiamo scoperto che tutta questa cosa dell'assegnare 4-3-3 in realtà no, bisogna assegnare un 5 e usare solo quella cosa. Se... Visto che hai colpito, recupera. Quanta cazzo di vita ha questo? Che danni hai fatto? Gli fa 2 danni tutte le volte. Gli hai fatto finora quanti danni? Tipo 6. Quando è arrivato addosso, 3 la volta prima. No, 3 come hai colpito anche l'altro prima. Sì, no, infatti non sto contando. L'altro ho colpito una volta. Così sono arrivato, ho fatto 3 danni. Poi la seconda volta... Altri 2. E poi altri 2 adesso. 2, 4, 7. Vedi che si concentra un attimo. Recupera l'arma, vedi che si concentra un attimo. E muore. Okay. Però è molto concentrato e muore. L'altro fa vabbè, l'altro fa per ricomparire la torre e recupera l'arma. Sta venuto. Vado io, andate voi. Allora io provo a far andare adesso il fuoco dall'ascia di Catta verso di lui. Ok. E aspetta, reset. Tira. 6. Sei in totale o sei di dado? No, in totale ho fatto 11. Quindi sono due danni. Uno. Ah, un punto fatto. Io spammo tutto. Sta picchiando K. Sì. Quello che sta, sto, sono davanti a lui. Brucia. Oh! Grazie fuoco. E attacco l'altro. 6. Di là. Altro. Ah no, sei full. Sono pieno di fatti e di fattine. Recupero un altro punto vita. E attacco, però adesso lui l'armatura la posa. Non so se ti vale questo, Per cosa? Di punto fatto. Ah no, non ne puoi accumulare quanti? 3. Io ce ne ho già 3. Esatto, non so, non so se ti puoi, se puoi farlo questa cosa. Non si possono accumulare. Dice pari alla volontà. No, non nel senso questo dici perché ne ho usato, ne adesso ne ho tre. L'hai usato per Quindi cosa hai fatto? L'hai colpito? Non mi sono curato. Vabbè. E niente, continuiamo sulla falsa riga. E ma perché questa ostilità davanti ai davanti al va bene, e consegna l'arma ai tua alla prescelta. Uno e uno e sei, quindi niente. Sciagura poi. Sciagura. Ah no, ne ho già una, ne ho sempre una. Quella che ho fatto adesso. Cioè, la ricarico. E vai. Quindi sta finalmente a lui. Sì. Oh, bella. Mi muovo un po' lontano, visto quel movimento. Il mio classico personaggio è alla fine della fiera. Ti muovi attorno, ti allontani. Proprio. Perché, ti spiego. Ci sono degli step di distanza, tu ti puoi muovere da contatto a vicino, medio, lunga, tipo, oltre c'è fuori scena. Tu vicino ad allontanarti, voglio essere in una posizione dove lui non mi ha addosso in un turno, semplicemente. Sei tipo il carretto tra te. Sì. Anche perché l'hai perculato per tipo 6 ore. Fare da solo scappa, no, adesso usa il tuo stesso trucco e mi convince a menarmi. Sì, certo, e io mi teletrasporto via. No, perché posso fare la tua ascia? Non sarà. Comunque Kat, è un'ottima idea la tua, quella di ammaliarti e usarti contro di noi. Quindi il prossimo filo di destino che prendo, uppo quella che ti faccio tirare la mia volontà per resistere. La tua ascia diventa di fuoco. E come prima, fuoco. Ma stavolta. Grazie! Aspetta. Prima c'era del fuoco attorno alla lama, si lascia le fiamme, okay. E quindi ti brucia e ti fa un danno. Armatura, no, ha fuoco, quindi niente armatura. E ora gliela dai comunque in faccia. No, non c'è. Sì, okay. Ma l'altro è morto. Sì. E quindi adesso fa comunque però danni di fuoco. No, no, dura un round, non credo. Cioè è istantaneo. Se usi un punto fatto, forse. Sì, fa danni a fuoco, ma si finisce anche tutto. Okay. Non no. Se io la faccio tornare normale. Trasmutazione. Ok. 6. OP. Ah, beh, sai, cioè, di 20 erano una possibilità su 20. Qui è una possibilità su 6. No, è molto meno perché devo per fallire devo fare doppio 1. Perché non è tira 2. Quindi è una su 12. Quindi è lascia normale, Katta. E io ho un punto. Grazie. Destino. Vai, non riattacco. 10. Ah, la tua magia non può nulla. Niente. 2 danni. Vez? Allora è ora di tirare una freccia con l'arco. Ma non c'ho l'arco io. E cos'hai? Ho lo stocco e il pugnale. Ma e tira il pugnale? Ma va là, picco catta sicuro. Cioè... sciagura. No. No, io farei questa cosa qua. Farei tipo... Qual è il simbolo della notte eterna? Beh, va bene. E... un panno nero. Vabbè, fare monte schiaccio. Allora, io prendo la mia pipa e ci faccio un... Però questa roba qua, che cos'è? Forse è più una roba di illusione, in realtà. Vabbè, ci proviamo lo stesso. E faccio sto teschiaccio. E l'idea è quella che lui proprio cioè, capisca che non c'è niente da fare, se ne rimane lì immobilizzato e pietrificato dalla durazione o dalla paura a sua direi scelta. Accuratezza per fare bene il simbolo. Accuratezza, quindi poca chance di farcela, però ci proviamo. E boom, 5 più 2, 7. Dai truccati a Tycoons and Dragons. Far sclerare il master a okay. Non mi piace più questo gioco. Vabbè, lui praticamente si inginocchia. Bravo. E Katta lo decapita. Sta di nuovo voi. Gli do una morte onorevole. Cioè, onore in questa... Adesso magari lo mangio. Però io sono lì che penso dovremmo ridefinire il concetto di onorevole, poi lo guardo. No, meglio di no. E niente, i pianti lascia tra qua nel collo in mezzo e praticamente affonda per mezzo metro separandogli quasi la spalla. E qui si conclude la prima sessione. No, aspetta, dai. Vabbè. Diamo un senso, perché io ho dato un titolo a questa puntata, diamo un senso a questo titolo. Siete lì nella radura, con questi due morti. C'è la torre. Diamo un senso a questa puntata. Entrate nella torre. So, ho fatto tutto da solo, io non ho detto niente. C'è la porta, la torre. No, sì. No, sì, è in pratica è una parete di pietra che si sposta. Io mi avvicino e dico: solo i più valorosi possono aprire i portoni che chiudono, che ci bloccano la via. E poi dico: vero Memphis? Sì. Beh. Trasmuto pietra in qualcos'altro. Non so, amico Dalbiron. Dalbiron. Dalbiron. Dalbiron. l'albero. C'era sentito che, non so, ho avuto l'impressione che ci fosse poco onore. Abbiamo sbagliato che... nel mio che combattimento? Cosa? Nel mio. Ah, nel tuo combattimento. Sì. Ma come? Finalmente hai venuto le mani. Vai. Qual è la regola che deve essere? Mi hai dato poca soddisfazione, non lo so. Magari la prossima volta esatto. Vuoi che ti lasciamo in pace. Qual è la regola che deve essere cambiata? La regola che abbiamo sbagliato è quella sui punti fatto per potenziare gli incantesimi. Puoi usare i punti fatto, ma solo quelli che ottieni sfidando il destino, non quelli che ottieni per sé automatici. Ah, ok. Vabbè, un danno in meno, è un turno in meno. È tutto tanto. È che noi non abbiamo bisogno di sfidare il destino, tanto è. È statistica. Basta girarlo il destino. È statistica di base, noi lo pigliamo il destino. Aggiriamo il destino. Vabbè, d'altra parte, alla fine noi ci facciamo problemi, ma tutto sommato, se fosse un Dungeons and Dragons. Avremo un mago che manda 4 dardi incantati e alla fine usa sempre quella roba lì. Sì, sì. Magari non ce li ha 4 dardi incantati a primo livello, ma questo è un discorso. Beh, no, comunque dicevo, non mi sento soddisfatto appieno. A maggior ragione, l'onore, cioè... Bisogna andare a cercare. Qua, esatto, bisogna andarselo a cercare la... Bene, mi hai convinto. Qualunque vai, cosa, a maggior ragione. Ah, allora sì, sembrano parole corrette. Queste parole suonano bene. Certo, non come quelle degli orsi, ma... Esatto. Vado verso l'ingresso. Ho deciso che adesso pregherei più personaggi, ogni tanto andrà lì, là, perché anche un lupo soffrito. Perché anche un lupo piange a volte. Guardo dentro. È bullo. No. No, sono delle torce, le pareti, molto spoglio, ci sono qualche stendardo, il simbolo della notte eterna, qualche arma alle pareti. La torre sale per 2 piani, forse entrate, vedete che c'è anche il sotterraneo. Andiamo su o andiamo giù? Solo un uomo di saggezza assoluta e grande e poca altezza può dircela. Divinazione su Venturo Sventura. Bravo. OP. In cosa tiro? Sempre prudenza. Sì. Ti ha fregato. Come funziona il tiro destino? Non so perché mi sta rompendo il palo. Tu tiri una volta che dopo puoi decidere di sfidare il destino. Definito, via. No, è lui che ha stupito. Va bene, allora forziamo il gioco. Direi che... E uso uno dei miei fili del destino per avere successo. Ok. Quindi livello come un maiale. Livellone non si... Dicevo andare su, Venturo o Sventura? Ah, ma non tiro un dado. No. Vuoi solo... Cioè, l'unica volta che ti avevo messo l'applicazione. Solo andare su oppure vuoi sapere dove andare nella torre? No, dove andare nella torre. Ok. Ti dice giù, senti che okay. Dovreste scendere giù, c'è qualche giusto, forza che ti chiama giù. Giusto per curiosità, quanto avrai fatto? 6, fanculo. E... Oh, è truccata sto applicazione. Direi che c'è qualcosa che mi spinge a scendere. Però vai prima tu, Barbara. Potrebbe essere la tua vicinanza con il piano sotterraneo piuttosto che con quello superiore? Ci hai pensato? Allora, mi hai chiesto un parere. La risposta. No, era così per dire, andiamo pure giù. Barbara, quale cosa più onorevole che prendere una torcia e farci strada in questo momento di difficoltà? Beh, in questo momento di... Sono ancora un po' confusa, ma le tue parole sono chiare. Sembrano... Nella notte Eterna? Domani. Vai, prendo una torcia e... Ok, scendete. Scendiamo. Sono comunque torcia. Perché ricorda anche un lupo a volte di... strada e quei simili. Cosa? Come, scusa? Scendete in questa scalinata stretta a chiocciola, ci sono teschi incastonati alle pareti che ci attaggono le torce. Cerco trappole. Che è un poderoso 2. Sciocco, non hai ancora capito come funziona questo gioco. Infatti ho fatto un ci manca il ladro. Okay. 3 più 2 5. Sei tu il ladro? No. Cioè io poco. Ci manca uno prudente. Io ho 3 di prudenza, però è un po' così, un po'. Vabbè, io ho 2. Prudenza e accuratezza. Cosa c'è? Continuate a scendere, arrivati in fondo, si apre questa grande sala con al centro una sorta di altare con sopra una sorta di globo luminoso. Posso fare una domanda, scusa? Ma adesso che è sala livellato prende una specializzazione anche o no? Sì, perché a livello... No, in teoria avrei dovuto prenderla prima. Dovrebbe essere livelli pari, mi pare. Per ogni filo pari che consumate scegliete. Allora sì. Allora sì. Sì, sì. Bravo. E per caso più OP, più OP. Che pende dal soffitto c'è una grande. Vabbè, questo fa parte delle regole, non ho fatto niente di strano. No, no. Non ce n'è mai abbastanza. Un globo e sapientino. Dimmi. Un globo luminoso in mezzo alla stanza. Mai diminutivo fu più azzeccato. Va bene, allora vorrei vedere se ho letto da qualche parte qualche cosa su questo globo. Ok. Globo di luce. Un globo di luce? Ironico, visto che la notte è eterna ed è anche scura. Ma forse è scuro. Ho fatto 3, quindi 8. Ho fatto, ma perché tirare? OP. Forse forse livelleremo in quel caso. A quel punto, oh, te ci tocca, livelliamo. Lo è stato no. Per gratificare i giocatori questo gioco. In verità sì, perché è tutto per raccontare la storia degli eroi. Sì, sì. Ah, sì. Sì. Anche, che, anche se muore in realtà non Clodes, perché... o anche, ti piace vincere facile. Ma no, comunque, dai, cioè, lo volevo spirito... dire anche che come trama ricorda anche molto l'avventura di Ema, cioè i predestinati, sì. Ci sono un po' meno vessilli. Sì, sì, è vero. No, ma no, questo non per Giulio, ma proprio il gioco. Il gioco che vuole che voi sì. Siate guidati. Sì. Poi non è detto che poi i giocatori siano i mega eroi del Però magari qualche gabbiano si serve lo trova. Queste tutte citazioni. Non avendo più esperienza non ti serve il gabbiano. No, è vero, esatto, è vero, vedi, vedi. È stato... per tradizione. Cioè, lo fai perché vuoi uccidere un gabbiano. Proprio. Vabbè, il globo di luce, tu vorrei sapere cos'era? Se ho letto da qualche parte qualcosa di questo tipo. Tu sai che ogni tanto... le profezie si manifestano in questa maniera. Quindi wow. Credo sia una profezia. Sì, è qualcosa legato a una profezia. Magari un... Solo tu, Memphis, puoi maneggiare un oggetto del genere. L'equivalente di un contenitore magico che abbia una profezia al suo interno. Ma magari che già nota, però. Unologo. Tipo, sì, non si misto tra un olocron o quelle boccette delle profezie di Harry Potter. Va bene, dai. Sembra quindi quasi se la prendo? Che... No, quindi vabbè, Memphis, se la prendessi, cosa succederebbe? O anche una sfera divinatoria, una sfera di cristallo. In quel momento sta proiettando qualcosa. Andiamo a vedere che cosa proietta. Ah, ok, cioè, oh, bene. Se ci avviciniamo. Avvicinate fino alla sfera. Sì. Guardate dentro. Guardiamo la sfera. Ok. Siete morti. No. Sì. Il tiro sulla vostra statistica più bassa. Cosa? Come? Livello. Livello. Allora, vi compaiono delle... iniziano a comparire delle lettere dorate suscrive in un vuoto. No, Barbara! Peccato! Ho paura! Se capisci anche tu, non sappia leggere. Oh. Ho livellato anch'io! Ma in verità è vero, cioè, tu hai livellato per leggere benissimo, semplicemente quanta esperienza. Semplicemente non conosci le cose. Cioè, tu sai leggere, però o te le scordi subito... No, però voglio fargli credere che io non so o leggi solo come... Ma come fa... Come potresti saper leggere? Cioè, hanno cresciuto i lupi. Che oh, cazzo? I lupi non possono leggere. Beh, esatto. Io, no, no, però magari la tribù nomade dove conquista tu dopo. Queste lettere questo razzismo compongono questa... Questa che, non so, magari Sala può Memphis può riconoscere come l'ultima profezia mai scritta. L'ultima profezia mai scritta. La storia delle storie. Scritto sette di qualcosa che tu hai detto. Chi è questa roba? Sette verranno oggi come allora. Sette cacceranno la notte, ma non tutti vedranno il giorno. Sette guideranno gli uomini, sette che sono molti, ma non tutti sapranno di farlo. Poi ci sono vari flash. Urca, è complicatissima questa cosa. Aspetta. Non c'è scritta nel manuale. Ah. Sì, va bene, ok. Non la sono inventata. Vedete una spada spezzata, del fumo e un libro. E vedete anche altre cose che però non riuscite a identificare. Figo, il fumo è la mia pipa, la spada spezzata è la tua. E il libro è il digno. Direi che qui possiamo oggi come allora. Sette verranno oggi come allora. Sette cresceranno la notte, ma non tutti vedranno il giorno. Sette vedranno gli uomini, sette che sono molti, ma non tutti sapranno di farlo. Però noi siamo tre. Ne manca ancora. Vabbè, non tutti vedranno il giorno e soprattutto non tutti sapranno di farlo. Va bene, chiudiamo qua l'episodio di Clodes. Sì, boh. I capricci di Giulio, volevo dire i capricci del fatto. Va bene, sì. È carino, come l'abbiamo giocato noi, sembra molto Dungeon World, però... Beh, un po' probabilmente perché come giochiamo noi le cose in generale. No, beh, vabbè, è vero. Questo va gioco bene, allora, presta a essere Dungeon. Sì, questo si presta. Sì. Quindi per riassumere, avete visto / sentito, se eravate nel podcast, il primo episodio di Capricci del Fato e abbiamo utilizzato questo nuovo gioco creato da Claudio Serena di Fumble che si chiama Clotes o Clothes. E l'abbiamo rovinato. E l'abbiamo rovinato nella prima sessione, l'abbiamo proprio maltrattato, almeno test, diciamo così. Serve proprio per questo. Però ci ha anche un po' gratificato, a parte Giulio, che adesso vorrà tornare sicuramente a Petrolieri Spaziali. La prossima si chiama Star Wars, come ci ucciderà, tra l'altro, che è molto vicino a farlo. Invece no, buone chance, io sto da infatti. Dio. E Arce ha ucciso 100 milioni di persone l'ultima sessione. Da buon Jedi. Esatto. Va bene, vi diamo appuntamento alle prossime settimane, adesso non sappiamo ancora la prossima data. Ad ogni modo, seguiteci sulla pagina Tycoons & Dragons, sul podcast RipGDR, sul blog ripgdr.wordpress.com. Se volete shoppare, sapete che Society 6 vi dà tutto quello di cui avete bisogno. Ma non roba nostra. Come no? Sì. Sì. Dai, una volta che lo dico giusto. No, e... E poi niente, insomma, questo è. Ci vediamo alla prossima. Buonanotte. Domani, buona per chi ci ascolta in diretta domani su YouTube. Ah, tieni tu? Ok, grazie. Va bene. E saluti destrutturati. Ciao ciao.